E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora verrà, per un futuro e per chi lo vorrà. Un solo cuore, un'unica idea, in questo mondo di ostinata follia, per ritrovare. Mentre nel mondo succede di tutto, mentre nel mondo cercano di assaltare consolati e ambasciate americane, mentre nel mondo esplode di nuovo la furia islamica, lui è tornato. È tornato Mimmo Scilipoti. Cantiamo insieme! Per unità ancora tu, ancora mia! Mamma mia, si sente male, disturbato! Sei stonato, tutto, c'è tutto, abbiamo tutto, completo. E dopo casca pure la linea perché sì, non ho più batteria. Ma capito? Che me ne frega a me, ma te puoi andare pure a quel paese, non me ne può fregare di meno. Casca pure è la tornato linea Scilipoti ed è tornato a parlare di omosessuali. Stai zitto, non mi rompere i coglioni. In Sicilia ci saranno le votazioni fra due mesi e lui sostiene un candidato che ritiene che la famiglia è composta da due uomini e non da un uomo e una donna. C'è un problema anche scientifico, perché se dovesse passare anche se dovesse passare questo pensiero, è il pensiero che due uomini possono formare una famiglia, nel giro di 100 anni potremmo rischiare anche la non più presenza della razza umana sul nostro pianeta. Crocifissi dai muri, senza rispetto dei valori cristiani. Oh, un solo cuore in questa odissea, perché insieme. Poi annuncia il movimento di responsabilità nazionale, porterà, e dico porterà, nuovi candidati dal Sud America. Mamma mia. Saremo presenti in questa competizione nazionale che si farà fra 8 mesi e perché no, nel poter pensare anche alla possibilità di fare eleggere qualcuno che sta nel Sud America all'interno dell'MRN e portarlo a Roma. L'MRN! L'MRN! Ma perché non fa armi e bagagli e non si dice a Beirut, lui il suo movimento, la sua lista? Che c'entra Beirut, scusa, cosa c'entra Beirut? Va in Medio Oriente, lì, in questi paesi qui. Ma a cosa fare c'entra la sua Beirut? Lista. Cosa c'entra Beirut? Cosa c'entra? Vada lì, vada in Medio Oriente. Molti interessati nel Sud America all'MRN, tante mail. In Sud America ci sono molte adesioni. Noi ancora non abbiamo elaborato il candidato o i candidati del Sud America, però ci sono molte adesioni da parte di persone che vivono in Brasile, da parte di persone che vivono in Argentina, in Uruguay, in Paraguay, in Venezuela. C'è molte persone che hanno mandato email dicendo che loro sono pronti a sostenere il movimento di responsabilità nazionale. Ma quale email? Ma quale email? Dal Sud America, ma di che stiamo parlando? Vabbè, torniamo seri, 800 24 00 24, anche se una punturina, una telefonatina va fatta al signor Scilipoti, soprattutto su questo nuovo no, su questo ritorno sulla questione delle coppie gay, ma anche per capire davvero c'è questo grande entusiasmo in Sud America per l'MRN, per il movimento. A me piace più la sigla MRN, che ti ricorda MRN? Ma mi ricordo i marxisti, leninisti, servire il po', quelle sigle che c'erano negli anni, fino agli anni 60, negli anni 70, tutte quelle sigle lì, di extraparlamentari. Vabbè, fanno molto discutere le affermazioni fatte da Nunzia De Girolamo, PDL, ieri alla Zanzara, come al solito. Bisogna precisare una cosa, il collegamento con la Minetti è indiretto. Cioè, ha detto, io preferisco Renzi a La Russa, a Gasparri, questo è tutto proprio scolpito nella pietra. Ha detto anche che diversi andiamo esponenti del suo partito sono... Andiamo dove? Sto parlando, Cristo. Sono in macchina, andiamo. Allora... Ci porti chissà un nuovo mondo fatto di verità. E allora dico, solo cuore anche nei giorni più duri, pronti a difenderci. Dico la De Girolamo, no? La De Girolamo ha fatto un riferimento diretto, cioè molti sono più imbarazzanti della Minetti. Ma non voleva dire la, poi qualcuno può fare, ognuno di noi può fare le deduzioni che vuole, ma non è che ha detto testualmente no, Minetti, cioè La Russa e Gasparri peggio della Minetti. Comunque, sentiamo Renzi meglio di La Russa e Gasparri. Se lei mi dice tra Gasparri e Renzi lei chi voterebbe, io voterei Renzi. Tra La Russa e Renzi chi voterebbe? Renzi. Tra La Russa e Renzi, pure voto con La Russa. Un grande coro e dentro ci sono. Giannino sta con Grillo, o comunque dice il processo di Grillo è ipersalutare. Giannino. Beppe Grillo, con tutte le caratteristiche che ha, ha messo in moto in questi 3 anni un processo ipersalutare. Quando mi chiedono sempre, da osservatore, parlo da giornalista, è l'antipolitica Beppe Grillo? Di solito sono gli uomini dei partiti a dire così. Dico no, è la risposta, una delle risposte, però la risposta più forte, quella che più ha fatto tremare dalle fondamenta le certezze degli uomini dei vecchi partiti. Per un futuro e per chi lo vorrà, un solo cuore, un'unica idea. Ma un po' di Borghezieide la vogliamo sentire o no? Beh, quello risveglia sempre gli animi. Un po' di Borghezieide, un po' di Borghezieide. Il fronte del Polisario, un modello, perché spara gente seria, esempio da seguire. Sentiamo. Alla festa indipendentista abbiamo degli ospiti inattesi che naturalmente ci fanno molto piacere, che faranno incazzare molti che pensano che noi siamo una banda di razzisti, eccetera. Aderisce alla festa indipendentista di Cogne domenica il fronte del Polisario. Pensate un po', gente che a differenza di molti di noi, che in fondo siamo dei parolai, spara per avere l'indipendenza, gente seria, gente, esempi positivi. Come al solito c'è molta carne al fuoco stasera, però vorrei dire due parole. Buonasera. Signori della crociera? Pronto? Pronto? Sì. Pronto, Parenzo? Buonasera, è la crociera con Sallusti? È la Zanzara? Pronto? Pronto? Sì, basta. Parenzo? Sono il signor... Pronto? Sì. Sì, mi buonasera. Sente? Sì, è il signor Parenzo che vorrebbe prenotare, credo. Sì, ormai non c'è più posto. Ma come non c'è più posto? Ma come non c'è? Come non c'è più posto? Io ho chiesto la cabina in me con Sallusti e la Sant'Anché, mi hanno detto che potevo dormire nel mezzo del nel letto in mezzo. Troppo tardi, mi spiace. Scusi, ma voi assicurate la presenza del presidente Berlusconi? Certo. Sicuro, eh? Non è che uno prenota, va là, paga, anche perché io potrei averlo fatto e lei non lo sa. È un altro nome. Potrebbe essere. Cioè, non è ma che non uno ha prenotato con la passatempo, forse? Non lo tramite, so. Sì, tramite non lo so. Noi? Ha fatto la mia segreteria personale, insomma. Ah, non okay, so con chi ha fatto. No, ma verifichi, avevo chiesto un lettino nella stanza di Sallusti Sant'Anché. Sì, ma va bene. Il direttore Sallusti sarà presente sulla crociera del giornale? È uno scherzo telefonico, anzi radiofonico, nuovamente? No, ma che scherzo, no, quale no, scherzo? Scherzo? Anzi, siamo serissimi. Sono cascata una volta, la seconda non ci casco più. Ma no, ma che c'entra, signora, su, se volevamo fare uno scherzo... Sempre io poi. Se volevamo fare uno scherzo lo facevamo, no? Cioè, certo. Se volevamo fare uno scherzo lo facevamo. Volevamo capire se era assicurata la presenza, volevamo dire a tutti coloro sì, che hanno prenotato. Quanti saranno in questa crociera? È interessante questa cosa qui. Quanti sono quelli prenotati? Non siamo autorizzati a dare... Vabbè, ma come non siete... Ma non è che il segreto... Non è il segreto di Fatima, cioè scusi, quante persone c'è? Che ne so, ci sono 500 persone che hanno prenotato, oppure è stato un fiasco? Assolutamente no. Un successo, un trionfo. Masse in marcia, la crociera del giornale. Ma io vedo già traffico qui a Milano, infatti, per andare all'imbarco giovedì, domenica a Genova, vedo già masse. Scusi, signora dell'agenzia di viaggi, vorrei capire se voi assicurate la presenza di Berlusconi al 100%. Gliel'ho già ribadito poco fa, mi sembra, giusto? Al 100%. Le confermo la presenza a bordo dell'onorevole Berlusconi. E di Mario Cervi? Ma che c'entra Cervi adesso? Beh, perché? Io rispetto. Porta rispetto per Mario Cervi. No, c'è no. C'è Mario Cervi o no? Pronto? Pronto. Sì, scusi, volevamo capire chi sono i VIP presenti. Cioè, allora, Berlusconi sicuro. Sallusti. Vuole sapere la presenza dei giornalisti? Sì, giornalisti, dei giornalisti del giornale. Ma Berlusconi quanto si tratterrà? Domenica? Solo domenica? Non siamo autorizzati a dare qualunque informazione rispetto a quello che avete già visto pubblicato sul giornale. Questo lo capisco però, certo. Questo, sulla presenza di Berlusconi questo lo capisco. Perché questo sul numero di persone che hanno prenotato non lo capisco francamente, perché uno può dire hanno prenotato 10 persone, 20, infatti, 30, 40, 50, 200. Vabbè, non si può dire questo. Si può dire 500 sono sulla crociera organizzata dal giornale. Lo so dire il numero esatto dei passeggeri. Appunto, questo si può dire. Si può dire più o meno 500, quelli prenotati proprio che hanno detto voglio fare la crociera con Sallusti, voglio fare la crociera del giornale dove c'è Berlusconi, perché insomma, diciamo la verità, signora delle prenotazioni, ma lei ci andrebbe a fare una crociera con Sallusti e con Berlusconi? Beh, sì o no? Io personalmente ci andrei al volo. Al volo ci andrebbe lei? Direi di sì. Ci andrebbe al volo, ma per incontrare Berlusconi di persona oppure per fare una crociera? Non ho capito, mi per fare una la crociera sento molto male, per fare una crociera o per andare con, o per incontrare Berlusconi? Direi che si unirebbero le due cose. Molto volentieri le due cose. Vabbè, ho capito. Ecco, è un'occasione dire... per incontrare l'onorevole e perché no fare anche una bella vacanza. Se però volevo se capire piace questo. Così, se gli piace così. Volevo capire questo. Nella camera di Sallusti. Ma che della ti frega della camera di Sallusti? Mamma mia. È possibile avere un lettino di quelli piccoli? Io mi sono portato letto vicino a Sallusti e Sant'Anché. Mamma mia. Direi di no. Non è possibile. Direi di no. Vabbè. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Eccoci qui, 18:48, 800 24 00 24, la zanzara. Puntata molto speciale oggi, puntata specialissima. Andiamo a sentire quello che ha detto qualche giorno fa Massimo D'Alema su un signore, sentite. Oltretutto, parliamoci chiaro. Venire dopo Berlusconi, io dico sempre, anche Gianni del ristorante Cacio e Pepe sotto avrebbe fatto la sua discreta figura, ma venire dopo Monti, oltretutto, comporta, come dire, una forza politica. Eccoci qua, caro Gianni, come stai? Il proprietario di Cacio e Pepe è con noi, eccoci qui. Diciamo che siamo divertiti dalla cosa. Tormentato. Scatenato un po' di ferio. Tormentato nei giorni scorsi come nominato cuoco di D'Alema, ma in realtà non è vero. Addirittura, che poi non è vero. I titoli dei giornali, cuoco di D'Alema. Però dimmi tutta la verità, caro Gianni, io che vengo da te da tanti anni, e Parenzo è arrivato pure qui in studio, cose incredibili, novità pazzesche. Allora, ciao Gianni. Dimmi la verità. Ciao. Complimenti a Parenzo per la battuta su Cervia. Ah, quella su Cervia quale? Su Mario Cervi. Su Cervi. Mario Cervi, tu andresti a fare una crociera con Sallusti e Berlusconi, caro Gianni? No, poveri. No, non ci andresti. Primo perché a me non piacciono le crociere, le giudico la cosa più triste in assoluto, per le vacanze e le cose. E poi soprattutto non vado a fare una crociera per incontrare il tizio, può essere Berlusconi... Comunque, siamo, nelle interviste, Gianni è diventato molto diplomatico, perché diciamo la verità, Gianni è molto di sinistra. Se tu frequenti il mio locale mi conosci. C'è gente che va a mangiare in un posto perché, diciamo, mangia bene. Altri dice, vado lì perché c'è quella o quello lì. Senti una cosa. La gente, come dico io, non so, vive di luce riflessa, non so. Dimmi una cosa, Gianni, ma D'Alema poi che cosa ti ha detto? Vi siete incontrati dopo quella frase? Sì, noi ci siamo incontrati proprio il giorno dopo, perché io stavo, come tu hai detto, sono stato tempestato di telefonate. Il primo è stato un mio amico che fa l'avvocato, mi ha chiamato alle 8 dicendo quante telefonate hai ricevuto, io ancora non avevo comprato i giornali. E la sera c'era un giornalista del Messaggero che stava scrivendo, diciamo, questo articoletto, e lui è rientrato, e allora gliel'ho fatta io la battuta, dico guarda, mi hanno chiamato tutti, e lui scherzando ha detto, dice vabbè, ti ho fatto un po' di pubblicità, mi devi una parmigiana, perché è uno dei piatti che piace a lui. Vabbè, non è che hai bisogno di pubblicità, diciamo. No, no. Però non è stato gentile D'Alema. Non ho capito. Cioè, non è stato gentile in quella battuta, perché ce lo potrebbe, col suo solito disprezzo, lo potrebbe fare pure Gianni. Perché io un po' lo conosco, non era in senso positivo, perché tutti hanno pubblicato solamente quella parte lì. Lui ha detto, dice, dopo sì, potrebbe farlo anche Gianni, lui per me ha detto, il primo non gli è venuto in mente, perché uscendo dal portone ci sono due locali, uno è arrivata da poco una signora che sicuramente lui non sa nemmeno come si chiama, poi a me mi vede sempre. Però lei non avrebbe fatto una figura migliore di Berlusconi, diciamo la verità, insomma, adesso... No, io faccio il ristoratore. Appunto. Io non faccio il politico. Allora, lo dica chiaramente a D'Alema, Berlusconi è sicuramente più bravo di me a governare il paese. Lo dica chiaramente a D'Alema, lo dica. Gianni, lo dica su. Devo dire a Massimo D'Alema che Berlusconi è più bravo di me. Come imprenditore, se da politica ha raccolto una serie di suoi, chiamiamoli, successi, insuccessi, ha lasciato quello che ha lasciato, adesso il problema è adesso. No, d'accordo, però io sicuramente lei avrebbe fatto peggio, insomma, dopo un giorno sarebbe stato un disastro già. Sarebbe proprio dove iniziare. Ah, dunque, Berlusconi è meglio di me. D'Alema, ti smentisco, Berlusconi è meglio di me. Fattene una ragione, Massimo. Questo è chiaro. Senti Gianni, però diciamo la verità, tu sei di sinistra, su, cioè, dilla tutta, sei di sinistra, diciamolo. Guarda, in questo momento... Storicamente, come sei? Storicamente, cioè, proprio dico il tuo cuore, hai sempre votato a sinistra o no? Centro-sinistra. Cioè, votavi comunista una volta o no? PC. Sì, dillo. Ma preferirei, guarda, siccome me l'hanno chiesto... Vabbè, ma Gianni, ma tanto non è che diminuisce la tua clientela? Gente, no, io non parlo di clientela. Ho detto, questo è un momento particolare. Facciamo adesso queste elezioni. Cioè, a me quello che scoccia sono tutte le finte alleanze. È diventato uno show solamente tutta la... come la vuoi chiamare, la campagna elettorale. Vabbè, adesso non ti metti a fare il politologo. Io ti ho chiesto, non ti mettere nei panni che ti ha cucito addosso D'Alema. Da ragazzo votavo comunista. Da ragazzo ho sempre votato Partito Comunista e poi i partiti del centro-sinistra. No, ho sempre votato Partito Comunista. Però molte volte ho votato Partito Comunista. E qualche molotov l'ho lanciata anche. Hai lanciato qualche bombetta? Sì, sicuro. Assolutamente. Ma anche D'Alema, ti ricordi che anche D'Alema lo disse, no? Ha detto che lui l'avevo letta questa cosa. Una molotov l'aveva lanciata. Ma invece tu, lui che è stato nel tuo locale, no? Lui è stato, si è seduto qualche volta oppure ha solo preso la roba e si è portato a casa? No, lui si siede, mangia normalmente come cliente, cioè poi viene lasciato in pace, ma non perché è Massimo D'Alema. Perché da me quando viene qualcuno, io ti ho detto, non faccio il finto simpatico. Ma tu invece sei mai andato a casa sua? Sì, lo conosco. Cioè sei andato a casa sua? Bella casa, ma no? Pure a cena sei andato? Pure a cena sei andato, no? Sono andato su da lui. A cena? Vabbè, dillo, non è un mistero della fede. È Gianni che fa il diplomatico, è una cosa pazzesca. Cioè, sono andato a cena da lui. No, perché mi piace questo scambio. Cioè, D'Alema è venuto da te, tu sei andato da lui. E ha cucinato lui, perché so che lui sa cucinare molto bene, come ha dimostrato a Porta a Porta tempo fa. Cucina molto bene. Ma secondo te dovrebbe ricandidarsi, D'Alema? Sì. Cioè, non ce lo vedi male, dopo tanti anni, comunque se... Se restasse in Parlamento non sarebbe una cosa negativa. No. Dovrebbe perché dovrebbe forse continuare a portare a casa a spasso il suo Labrador Lulu, no? Il suo Labrador Lulu. No, Lulu non c'è più. Oddio. Ma Grillo ti piace? Ancora non l'ho capito bene. Non hai capito bene, ma tu sei del PD, andrai a votare alle primarie sicuro, sicuro al 100%, dillo. Io andrò a votare alle primarie. No, Grillo ancora non l'ho capito bene, diciamo la tua situazione. Senti un attimo, ma andrei a votare alle primarie del Partito Democratico? Penso di sì. Penso di sì, Bersani? vediamo. Bersani, dai, ma, su. Però, ma, ristoratore, tu sei il re del cacio e pepe. Seppure tu sei frenato nel dire che cosa fai, cioè, che qual è il problema? Dimmi che voti Bersani, Gianni. Vado a vedere, dai. Ma, dai, ma non è che una tua dichiarazione sposta gli equilibri dello spread, capito Gianni? No, assolutamente. Gianni, guarda, di cacio e pepe, sotto grande casa di D'Alema. Grande. D'Alema ha detto delle cose su di lui. Lui ha detto, no, io sicuramente avrei fatto peggio di Berlusconi. Adesso dice, voto Bersani alle primarie. Dillo. Non l'ho detto. Ma dai, su, una cosa pazzesca. Una cosa incredibile proprio. Voto, ho votato PC e voto Bersani alle primarie. No, io non l'ho detto. Eccoci qui, cari ascoltatori da Zanzara, 19:19, 800-24-0024, prima del TG3 qualche cosina sul signor Batman. Signor Batman Fiorito, ex capogruppo del PDL a Regione Lazio, che si è autosospeso. 753 il totale degli autobonifici effettuati da Fiorito da uno dei due conti del gruppo PDL alla Regione Lazio sui suoi conti correnti personali. Noi siamo garantisti, naturalmente, tutto deve essere verificato. Tu sei garantista. No, anche tu sei garantista, tutto deve essere verificato. Sì. Per te è già colpevole questo. No, signore, ma dico, quei soldi lì come sono finiti sul conto? Per carità, no, ma infatti, verificheremo che magicamente sono passati lì. Però. No, no, ma certo, sono finiti in quel conto. Bisogna vedere se se l'è inguattati lui oppure erano spese per il partito o giustificate. Nel 300... suo conto 347.812 il totale dei soldi prelevati dal partito, 109 volte l'ex sindaco di Anagni avrebbe compiuto sempre la stessa operazione bancaria, 5 dei conti correnti di Fiorito erano depositati all'estero, tutti in Spagna, 30.000 euro il costo di un soggiorno a Porto Cervo, garantisti però, 28.000 euro pagamenti alla Telecom per morosità residenziale o business sempre appartenenti a Fiorito. Morosità, pure per morosità. Allora, io voglio essere veramente il più garantista dei garantisti, ma il problema non è quello, cioè se questi soldi sono stati spesi bene, male, il punto è un altro. Bisogna tagliare tutto questo, i finanziamenti pubblici alla politica, tutti, dal primo all'ultimo, ai grandi partiti, alle regioni, ai gruppi consiliari, tagliare tutto. Beh, però scusi, tagliare, ma tutto, per un Batman, per un signore, sì, come questo, sì, qui prima c'è, no, Lucy, poi c'è Batman, adesso ne arriverà un altro. Purtroppo casi isolati, no, e drammatici. Non sono isolati, non c'è, ci sono trasparenza, anche brave persone, sì, certo, ci sono persone, bisogna, che col finanziamento pubblico non mangiano le, non comprano le ostriche. Bisogna azzerare tutto il finanziamento pubblico, tutto, azzerarlo tutto. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Rivolta contro il film su Maometto, sedi occidentali assaltate, scontri e vittime dal Libano alla Tunisia, dal Sudan all'Egitto, allarme bomba in due atenei USA. Il Papa a Beirut, il fondamentalismo è sempre una falsificazione della fede, compito delle religioni nel mondo è costruire la pace. Berlusconi non va alla festa di Atreju, slitta ancora l'annuncio della sua discesa in campo. Meloni, occasione mancata, la russa non era obbligato. La finanza nella sede della Regione Lazio per i conti del gruppo PDL. Si autosospende l'ex capogruppo Fiorito, indagato per peculato. Bersani, lo statuto dei lavoratori, un fatto epocale di civilizzazione. Primarie senza barriere. Di Pietro lancia il fronte dei non allineati. Fiat svanisce il piano Fabbrica Italia di Marchionne. Timori negli stabilimenti a rischio di chiusura. E Passera chiede chiarimenti. Per l'agguato di 4 mesi fa al dirigente dell'Ansaldo ad Inolfi, fermati 2 anarco-insurrezionalisti, traditi da video e telefonate, preparavano la fuga all'estero. Ma dove vai se la banana non ce l'hai? Bella vagliana, attacchi da sta banana. E beh, continua il sexy gate, caro Parenzo, c'è un altro aggiornamento sul sexy gate, eh? C'è sul sexy gate del professor Sgarbi, esatto, bravo, funziona, non funziona, una svolta clamorosa, sì, clamorosa nel sexy gate. Vogliamo intanto ricapitolare come al solito per le orecchie dei ragazzi, sì, che sono, sì, all'ascolto, sì, sì, sì, per le orecchie dei bambini 19 e 22 insomma, che sono presenti, vogliamo ricapitolare, sì, tutto, certo, e allora... questa non è Radio Maria, signor Cruciani, però no, però no. No, no, no, però allora diciamo subito avvertimento ai genitori, no? Genitori che siete con i vostri figli in macchina, sì, in cucina, eccetera. tappate le orecchie e portate un attimo i bambini di là, sì, perché sta iniziando la saga del sexy game. A proposito di questo, però, prima, sì, scusi, devi permettere, sì, solo di ricordare ai nostri radioascoltatori che domani sarà il suo genetriaco, il suo compleanno. Ma cosa c'entra questo? Scusi. Siccome io la considero il mio Kennedy, il JFK della zanzara, sì, non avendo a disposizione una Marilyn Monroe in grado di cantarle Happy Birthday, Mr. President, ho pensato di regalarle questa voce amica. Provi a sentire chi c'è, la nostra Marilyn Monroe della zanzara. Ma cosa avete fatto? Pronto? Please, Marilyn Monroe, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Mr. President Cruciani, Happy Birthday Grataqui. Ciao Cruciani, sono Maurizio Paradiso, auguri ai figli fraci, almeno nascono intelligenti. Ciao Maurizio, grazie, la Marilyn Monroe della zanzara, auguri Cruciani, auguri. Sono un genio totale. Auguri a voleva figli. prima che lo caccio, prima e figli froci, sì. Prima che lo caccio ha voluto fare l'ultimo show di Parezzo prima della sua cacciata, insomma, questa è la sostanza dei fatti. Ma come hai fatto a pescare la colpo la di genio, Paradiso? Perché ho chiamato oggi la sua segreteria telefonica che purtroppo non si può mandare, no, in onda. Ce n'è una nuova dato che non si può assolutamente mandare. E le ho detto, guarda, oggi è il compleanno di Cruciani, cosa volevo che tu facessi Marilyn Monroe. Le ho detto, no, io sono Marilyn Morroidi. Ma detto, ma no, ma non si può. Sì, sì, allora abbiamo organizzato questa piccola gheghina. Ma possiamo anche risentirla? No, no, no, dopo, è tutto registrato oppure in diretta? In diretta. Era in diretta, certo. Ma è il numero uno. Ho voluto rischiare. C'è ancora? Maurizia! Allora eccomi qua, no, cari, no. Cruciani, auguri, angurie, veramente auguri. Va bene, tesoro. Grazie, Maurizio, ma perché angurie? Grazie, perché angurie? Va bene che anche tu stai diventando Babbo Natale, Cruciani, perché gli anni passano per tutti. Però da tutto il mondo gay e dal mondo delle transessuali, auguri. E ti voglio dire, grazie, una cosa. Grazie. Qualora tu abbia dimmi un figlio come me, viva il matrimonio bene. Ma io benissimo, figura. Diciamo una cosa sola, cara Maurizia, viva il matrimonio gay. E viva l'amore, non i matrimoni. Viva l'amore e che duri finché duri. Okay? Ciao. Su bel duro. Ciao. Ma come su bel duro? Ma perché su bel duro? Ma in realtà qui c'è una doppia cosa. Sapendo che potrebbe essere cacciato Parenzo, cioè, ha usato Maurizio Paradiso per far cacciare anche me. Questo è il punto fondamentale. Esattamente. Su bel duro, com'è che ha detto? Basta, dai, su bel... Il sexy gate, restiamo in tema, partiamo dall'inizio di tutto, cioè dire il fotografo. Beh, scarpi, poverino, lui è finito da tanto tempo. Beh, lui è proprio, come ho detto, coitus interrupto, non riesce proprio, non ci arriva. Secondo me non me ne frega niente, se Sgarbi è impotente, no, l'ultima cosa è la potenza di Sgarbi. Come vedete, ultimamente la sua potenza non è neanche più intelligente, poverino, sta perdendo anche quella. La replica di Sgarbi. Certamente uno che cocaina ne ha presa e droga ne prende tuttora è Oliviero Toscani, non c'è alcun dubbio su questo. E figlie, non c'è dubbio su questo, l'ha presa e la continua a prendere. E uno che gliela dà certamente è Gian Marinaro. Toscani. Comunque, per dire una cosa così, uno deve avere delle prove, delle testimonianze. Io ho delle testimonianze che Sgarbi è impotente, invece. Delle signore che dicono che Sgarbi è impotente. Rocco Siffredi, Sgarbi e Barzot Man. Ma Sgarbi è un grande, dai. Un grande, io lo chiamo Mr. Barzot Man. Barzot Man. Sgarbi, sentite intervista alla Risi con Cruciani, da Chiambretti. Lui ha letto con me, non c'è mai stato né mi ha mai visto. La Vittoria Risi è stata, ti manca il passaggio in cui Cruciani ha intervistato Vittoria Risi, che ha raccontato quello che ha visto. Allora, se vogliamo entrare nel merito così pecoreccio della mia attività sessuale, prendiamo una fonte certa. La fidanzata, che però non va a letto con lui da anni, cioè Sabrina Colle. Da 10 anni. Più di 10 anni. Dice... Tutto funziona. lo vedo, guarda, siccome quindi vedo tutto, nel senso dormo, condivido lo stesso letto con Vittorio, tante vabbè, cose, che condivido c'entra. La vita con vuoi che non mi accorga di queste cose, lo vedo, tutto va benissimo. Ah, vedi ma non tocchi. Ah, tocco. Io tocco, però non hai rapporti, hai detto, da un sacco di anni. Vabbè, il rapporto è una cosa, poi si può toccare sempre, no? Sono fermo in rada. E va bene, siamo messi così, 800 24 00 24. Mentre succede l'inferno in tutto il mondo, ci occupiamo della potenza sessuale di Sgarbi. Nicola, provincia di Salerno. Pronto? Sì. Sì. Buonasera, è un piacere parlare con lei. Le volevo dire solo una cosa. Se è nervoso, sì, non vada a fare la trasmissione. Sì, ma io ci vengo, io vengo anche se sono nervoso, forse non ha capito, sì, che è la vita, almeno è la vita anche di tirare giù bestemmie. No, non ho detto perché nulla, ho detto Cristo. Per me non ci sono, no, un attimo, per me non ci sono problemi, perché non sono tanto. No, ma guardi che non ho bestemmiato, ho fatto, ma io non ho bestemmiato per niente, ho detto Cristo, che è un'imprecazione, non è una bestemmia. Sì, perfetto, si documenti. Però per alcune persone si documenti. Ma è come dire oh my god, uguale. Sì, la stessa, oh my god. Forse l'inglesismo era un po' meglio. Comunque non c'è un problema, se qualcuno si è offeso. Oh my god, lei l'ha mai sentito, mai stato negli Stati Uniti? Spesso si dice oh my god, it's terrible. Però Cristo forse in Italia è un po' vabbè, non è un problema, guardi Nicola, se qualcuno si è offeso è un po' diverso. Vabbè, ma qual è il problema? Scusi Nicola, non ho capito qual è il problema. Forse il problema è questo qua, lei è un personaggio pubblico, volendo non è, sì, un personaggio pubblico. Allora? Quindi deve dar retta anche magari a qualche ascoltatore che Cristo le sto dando retta Nicola. No, per me non ci sono problemi, perché ma io guardi, che se qualcuno si è offeso, sono qui, ma non è offeso, non... per cosa? Per quello che ha detto, oh mio Dio, cioè, mi sembra. Ma adesso, guarda, la sto difendendo. Sto dicendo che lei che il dottor Fusione ha bestemmiato in diretta. Ma non ho bestemmiato. Ma non è una bestemmia, l'ho sentito perfettamente anch'io, che ero nel taxi, nei miei trasbordi quotidiani. Io la combatto. Eccoci qui, la zanzara prosegue, 19.34, 800.24, 00.24, oh con... my God. Che è successo? Omero da Cagliari, Omero. Luigi da Monza, Enzo da Palermo, Maurizio dalla provincia di Modena. Però c'è da dire una cosa, Parenzo, sai chi è il difensore del Batman? A proposito, si è chiamato Batman Fiorito, l'ex capogruppo del PD della Regione Lazio, perché una volta è riuscito a cadere dal motorino fermo. Col motorino fermo. Fermo, dunque, sì, in sì, romanesco si può dire... Il Batman, a fenomeno in questo Batman. Senso. Vabbè, ma lasciamo perdere questa cosa qui. È difeso da Carlo Taormina. No. Sì, sì. No. C'è anche un altro aneddoto da raccontare, riportato da Repubblica Curioso. Quando il principe... Chiaramente innocente, una campagna di stampa diffamatoria state facendo alla Zanza. Amatoria. Abbiamo le prove che è una persona integerrima, guarda, integerrima. E chi è colpevole, vedrai che salterà fuori il vero colpevole. Sicuramente Cicchitto è stato. Ma che c'entra Cicchitto? Sicuramente è stato lui. Squaderneremo tutto. Faremo una commissione parlamentare d'inchiesta che presidierò io. Io. Ma cosa c'entra? Io lo so chi è stato. Ho le carte. Raga, cretino De Cruciani. C'ho le carte. So io chi è stato. L'hanno incastrato, è chiaro. Il professor Taormina, tra l'altro, riuscì a dedicare a Fiorito i 100 fioriti, che è la moneta del Principato di Filettino. Una cosa pazzesca. Se voi andate a vedere, credo sia pubblicato sul sito di Repubblica, c'è la moneta dei 100 fioriti del fantomatico Principato di Filettino con l'effigie, la faccia. Ma come mai? Di Fiorito. E che aveva lo fatto stesso di, implicato in questa faccenda. Di così importante. So, c'è George Washington perché, sui dollari, no? Perché uno è nato in quelle zone lì. È stato sindaco di Anagni. Personaggio encomiabile, bravissimo. Una persona squisita. Dice, come è accusato di peculato? Cosa deve... Una persona squisita, guarda. Ma squisita proprio. L'altra notizia è che Sgarbi invita i conduttori del programma La Zanzara, cioè noi. Leggo questa cosa, anche qui è un comunicato stampa diffuso da Sgarbi. Visto che vi occupate del mio uccello, perché non aprite un dibattito sulle tendenze sessuali di Oliviero Toscani? Milano è piccola e le Marchette parlano. Una cosa gravissima sta dicendo. Nel momento in cui Oliviero Toscani si preoccupa di quello che non fa e si occupa del mio uccello, che non ha mai visto, io citerò una fonte interessante per aprire un dibattito sul suo di dietro. Vediamo se ha delle osservazioni su informazioni così precise di un testimone che mi scrive. Oliviero Toscani pratica da almeno 2 anni. Vabbè, insomma, delle cose pazzesche. Ma come si fa? Chi sono gli informatori di Sgarbi? Chi sono gli informatori di Sgarbi su Toscani? Veramente questa cosa sta finendo in un insulto quotidiano tra Sgarbi e Toscani, in cui addirittura adesso Sgarbi annuncia che ha delle informazioni sugli amanti uomini di Toscani. Una cosa pazzesca, anche con i dettagli di quello che fanno. Vabbè, Omero da Cagliari, su. Buonasera a tutti. Vada. Allora, piccola precisazione sul caso Alcoa. Io sono stato con la mia azienda un fornitore di Alcoa, sì, per un certo numero di anni. Io ho fatto il passaggio da Alumix ad Alcoa. Molti non sanno che Alcoa deriva dalle trampalate politiche delle partecipazioni statali, sì, dove hanno foraggiato voti con assunzioni di ogni genere, sì, e ora ci ritroviamo in una situazione di questo tipo. Quando hanno venduto ad Alcoa, che aveva un indebitamento maggiore del suo fatturato, e abbiamo pagato con i nostri soldi, con delle finanziarie apposite sul finanziamento dell'EFIM, che poi è stato liquidato, sì, così l'Alumix, cosa è successo? Andiamo al sodo, Romero, andiamo al sodo, su. Non la faccia troppo lunga. Esattamente, venduto dal Coa senza pensare che allora dovesse comprare per questo. Però voglio dire questo, io con la mia azienda molto rapidamente fui cacciato, anche i miei dipendenti chiaramente. Non ci siamo legati ai cancelli, ci siamo cercati altri lavoratori, e torno a dire il fatto che le aziende che hanno meno di 15 dipendenti hanno molto meno potere, hanno molto meno valore di quegli altri che possono tranquillamente legarsi ai cancelli, battere i cassi. È quello che dicevamo ieri, Omero, c'è un sacco di gente che viene licenziata e che però non si lega ai cancelli, non occupa le strade, non rompe le balle sotto le piazze, eccetera, esatto, eccetera. E la politica non pensa una cosa, però, che in quel polo industriale che è nato per politiche forse nate, che non ha niente da invidiare geograficamente alla Costa Smeralda, alla zona sud-occidentale della Sardegna, vabbè, allora guardate con Google Earth, vi rendete conto, dovrebbero applicare, secondo me, delle politiche di risanamento del territorio graduale. Non grazie, possono grazie. Luigi da Monza, grazie. Buonasera a tutti. Dica. Niente, io volevo fare un po' di fantapolitica, visto i moralismi che girano ultimamente. Adesso My God è diventata una bestemmia. Vabbè, e che vuole fare? Ho detto Cristo ed è diventata una bestemmia. Ma infatti è una roba incredibile. Allora, se andassero a leggere i trattati e gli scritti del Cardinal Martini, visto che chiamo da Monza e so di che cosa sto parlando. Bravo, bravo. Stavo parlando, volevo dire, fantapolitica, i signori Renzi, i signori Grilli, adesso glielo dico, Grillo. Ma se andate a leggere bene i programmi e quello che dicono, forse ci troveremo dentro 25, forse 35 anni, se non 49, di battaglie civili dei radicali. Ma sì, ma quando sia mai, sull'economia, sia sui diritti civili, sia sul finanziamento pubblico dei partiti. E allora? Niente, voglio semplicemente invitare i nostri ascoltatori di andarsi a leggere un attimino la storia, verificare e cercare di invogliare questi leader a dire: ragazzi, allora stiamo rubando delle idee che già c'erano, che se avessimo applicato 25-30 anni fa, e addirittura gli italiani hanno votato, vinto del referendum, i partiti politici li hanno poi rinnegati, forse potremmo magari raddrizzare un attimo le cose. Va bene, Luigi, grazie, non ho capito nulla. Luca da Venezia, buonasera. Non ho capito niente, cioè, niente, detto. Non si sa che cosa dovrebbero fare i partiti, cioè prendere delle idee dei radicali, oppure i partiti, cioè Grillo ha copiato dai radicali, allora. Luca da Venezia. Buonasera Luciani. Vada. Niente, volevo solamente dire che ultimamente mi sembra che, e questo lo può cogliere anche lei, le tantissime telefonate sono sempre di critica. Sì. Magari le mettiamo apposta, no? Ah, non lo so, perché può darsi, poi fare un po' cosa di battaglia. Succede? Che quando qualcuno la pensa come lei è tutto quanto gentilissimo, quando qualcuno dice qualcosa che non le va bene è... Io voglio telefonate, voglio telefonate di gente che non è d'accordo con me, si figuri un po'. Cioè. Però parliamo sul concreto, cioè dell'Utero parli di cose concrete invece di chiacchiere, tipo, invece di fumo. Guardi che le chiacchiere le fate voi con l'Uccello di Scarbi, adesso col Deretano certo, di Toscana. Certo, vogliamo parlare di certo, cose concrete, allora sì, le dico non una cosa concrete, concreta, di una cosa, qualsiasi cosa. Perfetto, parliamo del diritto di sciopero che avete detto ieri. Ma quale diritto di sciopero? Io non ho parlato di diritto no, di sciopero. No, no, no. Di diritto ma di lei, sciopero, ma non è vero, non ho detto questo. No, io ho parlato del diritto a occupare una fabbrica, questo ho fatto, ho parlato del diritto. Invece di con la situazione come va, con le aziende che ne approfittano anche tra virgolette della crisi, perché mentre prima venivano sbranate dai sindacati, adesso quando licenziano qualcuno dicono ciao, devo licenziare altrimenti con la crisi e tutto va bene. Allora? Allora, le aziende piccole che i dipendenti si trovano fuori non hanno assolutamente modo di potersi farsi sentire da nessuno. Ma guardi che sono d'accordo con lei, l'abbiamo detto no, ieri. Lei dice, no, lei ha detto il contrario. Ma lei che ha detto, che, ho detto non serve, che non serve ad attaccarci su un pilone. Ma su questo non c'è dubbio. Su se questo non attacco, c'è dubbio. Se non mi attacco su un pilone, sì, posso andare in giro col cartello come quel signore che è davanti al Ministero a Roma con la tenda da mesi. E infatti ha risolto nessuno, tutto. No, non ha risolto niente, però almeno ecco, un po' appunto di visibilità c'è. Là, ma allora quale visibilità? Su. Ma come qua? Allora mi dica lei come facciamo? Senta, come facciamo perdere, uno che è licenziato? Come uno fa che la è licenziato cerca un altro lavoro, non va a protestare. Un altro lavoro, ma protesta contro chi poi? Protesta contro chi? Ma lei fa una contro chi? Contro il mondo? Contro, contro la politica? Contro quei padroni? Protesta contro chi cerca un altro lavoro? Sì. Cerchi un altro lavoro, invece di protestare si cerca un altro lavoro. Stiamo parlando di disoccupazione ai livelli più alti. Sì. Adesso lei sembra che invece trova il lavoro dietro l'altro. Però ha ragione. Ma non ho detto questo. Cioè, non ha detto che cerca un altro lavoro. Sì, si cerca un altro lavoro, certo. Ma non possiamo... Non va a protestare contro il destino cinico e male. No, ma ha ragione questo ascoltatore. Non possiamo... Chi non ha, chi ha la pancia vuota, ha diritto a fare qualunque cosa. L'Alcoa chiude perché vuole mantenere le quote di mercato dell'alluminio a prezzi più alti, quindi non chiude per problemi strutturali di mercato, ma dice se io produco tanto alluminio allora il prezzo si svacca. E cosa succede? Che lei mi dice invece che uno si va a trovare un altro lavoro, invece di dire no, cara Alcoa, tu hai prodotto, hai fatto quello che hai fatto fino adesso vuoi chiudere per discorsi di mercato. Chi è che decide? Qualcuno decide quello va capito, chiuso o non va chiuso? Allora uno non può protestare, io dovrei che lavoro no, ma chi però può protestare? Dovrei prendere e dire vabbè domani vado in cerca, no, vado a fare i frutti vendolo. Importante, perché... è importante non occupare le strade, non attaccarsi. Le strade si occupano perché bene, è l'unica allora, maniera così per farci sentire. Ogni tanto una strada si può occupare. Se le piace così. Ha ragione, ogni tanto si può, per qualche ora non succede niente. Se vi piace così. Cioè meglio occupare i tetti delle fabbriche. Se vi piace così come metodo. No, mi dispiace, è molto più semplice arrampicarsi su un pilone che invece bloccare Milano con gli autobus e quant'altro. Luca, però è l'unica maniera per ottenere visibilità. La ringrazio io. Purtroppo è un dramma chi sale su quei piloni a 100 metri per dei giorni si risolve senza tutto. Bere fra poco né mangiare. Non se ne parlerà più e no, ma mettono, che non sarà servito a nulla. Ma mettono la loro vita, la loro pancia vuota, è un atto ma talmente estremo. Di filosofia, ma non è filosofia, ma uno che ha la pancia vuota ha diritto di protestare nel mondo, in modo non violento in qualunque modo e ha il diritto. Non è che dobbiamo far finta di non vederli questi, cioè, che palle, andassero a cercare, magari vanno a cercare. Sai chi è lavoro con noi? Un ex ministro, caro Parenzo. Un ex ministro del governo Berlusconi. Vedi che già capito, ex ministro. Ce n'erano tanti. C'era un numero normale di ministri. Dica la verità. Quanto è autorevole? Dica la verità. Beh, lei. L'autorevolezza è una cosa che non è che si può giudicare così. Sì. Ex Democristiano. Forse ancora Democristiano. È un storico amico della Zanzara? Sì, assolutamente. È uno storico amico. È uno che difende la casta. Mi faccio arrivare piano. Difende la casta. Che difende adesso i privilegi dei parlamentari. Ma i privilegi dei parlamentari, adesso non esagerare. Insomma, aveva come dice la Santanchè. Allora è per forza. Gianfranco Rotondi è con noi. Rotondi. Buonasera. Salve, buonasera. Come sta? Questa voce era bene, ho sentito il mio necrologio. No, perché necrologio? Non è Rotondi. Sa che io voglio mettere la sua voce nel telefono. Cioè, vorrei che la Zanzara lanciasse questa nuova suoneria con il suo aforisma, la sua massima sulle che le cose sono valide solo nel momento in cui sono dette. Vorrei farlo diventare una suoneria del telefono. Beh, questo potrebbe essere un business interessante, Rotondi, se lei dovesse abbandonare la politica. Ma io penso che più che un business sia, diciamo, la lapide della Seconda Repubblica, nel senso che la massima che io vi ho citato risale alla Prima Repubblica, quando pure le cose erano vere solo quando erano dette. Sì. Ma duravano qualche mese, qualche anno. Sì. Nella Seconda Repubblica le cose mi sembra che siano valide all'orario in cui sono dette, poi magari qualche ora dopo no. Scusi Rotondi, però tanto per fare incazzare ancora di più la gente che ci ascolta, sì, che non ha fiducia nei politici, vogliamo ripetere questa massima favolosa? No, ma guardi, io posso dirle che nemmeno io ho fiducia nei politici. Ah, bene. Beh, come no, questo c'è da crederci. Come nemmeno beh, io ho fiducia nei politici. Facendo politica ha ragione. Cioè non ha fiducia nemmeno in se stesso. Sa qual è la differenza con la gente che ci ascolta? Che io non ho fiducia nemmeno nella gente che li vota. Cioè, ah, ho capito. Cioè, lei dice che tanto... Ma lei si voterebbe. Ecco, ma lei si voterebbe. Cioè, ha fiducia in se stesso. No, ovviamente non si voterebbe, dai. Lei sa, mi costringe a citare, mi disse che non aderirebbe mai a un'associazione che lo eleggesse rappresentante. Voglio mettermi così in alto, ma insomma, nel mio piccolo, anch'io ho il senso della misura, della modestia, per cui magari nel darmi il voto qualche complesso, qualche scrupolo di coscienza ce l'ho. Cioè, però diciamo la verità, non mi voterei, non mi voterei neppure io. Diciamo che vale quel che disse una volta Andreotti: consapevoli dei nostri limiti, ma consapevoli anche di non muoverci in un mondo di giganti. Beh, le citazioni di Rotondi sono sempre le citazioni. Che io ne ho una simile, che però se mi considero mi deprimo, se mi paragono mi esalto, che è simile a questa massima andreottiana. Comunque era Longanesi a dire che nel Parlamento dell'epoca, ma vale in tutti i parlamenti, il 10% degli eletti sono migliori di chi li ha votati. Il 10 peggiore, l'80 esattamente uguale a chi li ha votati. Beh, questo qua è sempre valida come cosa. Vogliamo ripetere però la massima storica di Rotondi qui alla Zanzara? No, perché... mica è mia, quella era una cosa che diceva il grande Fiorentino Sullo, appunto uno dei pochi giganti che io ho conosciuto. E lui ogni tanto veniva chiamato ad una dichiarazione, in quel caso di anni prima, e rispondeva sempre: guardate che la politica non è una scienza esatta, le cose che si dicono hanno valore nel momento in cui vengono dette. E vabbè, questo vale ancora di più oggi, diciamo la verità. Senta, ma oggi c'è il degrado di questa regola, nel senso che c'è una civiltà politica fondata su singole transazioni. Allora io Montezemolo scendo in campo e dico quello che mi conviene oggi, che è il contrario di quello che ho detto 2 anni fa. E dico Montezemolo per citare l'uomo del momento, ma ne potrei citare 100, ecco. Allora, andiamo a sentire quest'ultima polemica che riguarda Berlusconi, che riguarda la sua presenza ad Atreju, la festa dei giovani organizzata da Giorgia Meloni. Alla fine Berlusconi non è andato, ma come sapevano tutti in realtà, la Meloni se l'è un po' presa. Sentiamo la Meloni. Ti invitano. No, Berlusconi non sarà qui oggi pomeriggio, sceglie... dopo diversi anni di presenza ad Atreju di non partecipare quest'anno al tradizionale confronto con i ragazzi del movimento giovanile, una scelta che francamente insomma è un peccato, perché in questi anni confronto senza filtri, serio ma anche a tratti divertente. Io la combatto da ore. In realtà poi il succo delle dichiarazioni della Meloni è un altro, perché ha detto: hanno messo Berlusconi in una sorta di teca. Vogliono chiuderlo in una teca, hanno così filtra dal suo entourage. Mi dispiace che abbia scelto di non partecipare. Mi dispiace che il PDL qualche consigliere tenti di chiudere il presidente in una teca, mettendolo in guardia da partecipare a manifestazioni, da parlare in pubblico, da avere rapporti con la gente, che sono esattamente le cose in cui Berlusconi, eccetera, eccetera. Senta, altri dicono invece ha fatto bene, perché in questo momento è meglio stare un po' sghisci, come si dice, no? Schisci a Milan, schisci vuol dire bassi. Schisci, bassi. Schisci. Cosa deve fare Berlusconi? Parlare o non parlare, Rotondi, secondo lei? Bah, io trovo che Berlusconi sappia fare benissimo Berlusconi senza i miei consigli. Provi comunque a dare un consiglio. Che cosa Io glieli ho sempre dati e credo che non li abbia mai seguiti. Cesso di esercitarmi. Vabbè, ho capito, ma ha sbagliato a non parlare, oppure davvero come bisogna dice... vedere il motivo per cui non è andato. Può darsi che avesse altre cose da fare e quindi figuriamoci. Devo dire che non ci abbia molta voglia di andare in giro. Lo vedo, tant'è che noi abbiamo l'evento di San Vincent, che è c'è a San Vincent? Ah, questo è un evento fondamentale. In origine era la festa di quella che era nota come la DC di Rotondi. Poi, da quando siamo entrati nel Popolo delle Libertà, è diventata la festa autunnale del Popolo delle Libertà, e ogni anno è venuto Berlusconi, l'anno scorso Alfano. E quest'anno, quest'anno manco se fa, è cancellata. Quest'anno no, ci sarà la festa dal 12 al 14 ottobre, venerdì, domenica. Noi siamo piccoli, ma teniamo la strada. Ma e che si fa delle, questa festa? Meglio delle i dirigenti. Ma si balla, si canta? Cioè, no, è una festa politica, quindi dibattito. È la festa del popolo delle libertà. No, è la festa di Rotondi. Che lei obbliga, lei obbliga tutti i big del PDL a venire lì, a venire lì per tre giorni a sta roba. La festa di Rotondi, oh, glielo devo proprio dire. Era la festa della DC. Poi della DCA, poi del Popolo delle Libertà, che le devo dire? I partiti passano, Rotondi e San Benzano resta. Ma è quest'anno però che le è andato tutti i picchi, mi pare di capire. Volevo tornare a Berlusconi. Se vuole le mando qualcuno io. No, però scusi. Chiude Alfano, chiude Alfano la festa e Berlusconi farà una telefonata perché noi abbiamo proprio chiesto di venire perché ho capito che è una fase in cui preferisce giocare la sua visibilità in un altro modo. Ma va in crociera, ci andrebbe lei in crociera con Berlusconi, la crociera del giornale? Ma guardi, io ci sono andato nel 2000, la nave azzurra che aggregò un popolo che ci portò alla vittoria delle regionali e ricordo con particolare. E perché non ci va pure quest'anno la crociera del giornale con Berlusconi? Perché nel mio piccolo pure io mi occupo dei giornali e quindi è un giornale concorrente, no, non vado. Vabbè, ho capito che c'è il giornale concorrente, non è quello... Che giornale ha Rotondi? Non ho mica capito. Sì, un giornale. Scherzo, anch'io ho un piccolissimo quotidiano che si chiama Democrazia Cristiana, guarda un po'. Pagato da noi, pagato da noi, quindi, comunque vabbè, lasciamo perdere, va, pagato. Bisognerebbe cancellare pagato, tutte queste cose, cancellare. Dire, sì, cancelliamo tutto quello che si vuole, però la vogliamo dire una cosa, e cioè che in tutta la panoramica dell'editoria di partito, pagata da voi, da noi... Quante copie vende lei, Rotondi? Quante copie? Dimmi la verità, 10, 20, 30? No, era già online e va online. Sa qual è la differenza? Qual è? Che prende il 10% degli altri e ha la stessa diffusione, cioè modesta. Ci sentiamo dopo il giornale radio, 800 24 00 24. La Zanzara. Quanti soldi prende questo quotidiano che lei dirige? Come non si lo chiama? So perché, ma come non lo sa? Fa riferimento a me, ma prenderà 200-250 mila euro rispetto ai sinceramente io non ho mai visto nessuno, giro molto l'Italia, ma non è online, giuro, adesso è ma online. Sarà anche online, ma online però non l'ho mai visto cosa. Nessuno andare su quel sito lì, mai nessuno, vedo tanta gente però mai nessuno, ma neanche per sbaglio, neanche perché è stato digitato per sbaglio su Google e ti dice forse cercavi, sai quando uno sbaglia. No, parliamo invece ogni giorno zero e vedo che non mi seguite, ogni giorno sulle agenzie c'è un riferimento a questo giornale dove escono le prese di posizioni nostre. Ma che mamma, naturalmente io sto approfittando ma le sue, di voi. Ma le sue, naturalmente scusi. Io sto approfittando di voi per fare un po' di propaganda. Ho capito, ma lei... adesso ci voglio andare, giuro su Dio, allora, giuro su Dio che ora ci vado. Visto che mi avete dato il destro e non è manco propaganda perché dite che nessuno se lo legge. La festa del del popolo delle libertà sarà a San Vincenzo al 12. Ma che festa del popolo delle libertà? La festa dei Rotondi, su. Ed è organizzata dal quotidiano Democrazia Cristiana. Ma cos'è? Com'è? Democrazia Cristiana Quotidiano. Democrazia. Senta, Rodi, quanti soldi diamo noi per questo Democrazia Cristiana Quotidiana? Non lo so. Ma come non lo sa? Voi ne state dando tanti perché è uno spot, devo dire un po' maliziosamente da me provocato, ma voi ci siete cascati. No, ma scusi, no, ma non scusi, è che ci siamo cascati. Noi a me viene male. La verità è un'altra. È che voi siete diventati a vostra volta dei nostalgici della Democrazia Cristiana. Ma assolutamente no. Assolutamente no. Io che sono un esperto del segmento, vi interpreto e tiro fuori quello che non avete il coraggio di ammettere. Il vostro outing è che rimpiangete anche voi la Democrazia Cristiana. Guardi, però sto... scusi un attimo, mi dica chiaramente una cosa. Renzi è potenzialmente il nuovo Berlusconi. Ma questa vede, io sono affettuosamente vicino al presidente Berlusconi senza risparmiargli tante volte critiche e riconosco che è bello il rapporto proprio nella libertà di critica. Vabbè, ma le piace Renzi o no? Questa non è una critica, questo è un insulto. Addirittura. Certo, perché la storia personale di Silvio Berlusconi sarà lo stesso Renzi a dire che non è la sua. Ma scusa adesso. una Vabbè. Cosa gravissima. No, Cruciani, ho aperto il sito della Democrazia Cristiana Quotidiana. Ed c'è un articolo con cui si apre del 16 dicembre del 2003. Amico mio, del 2003. Siamo nel 2012, amico mio. Sto pagando un articolo del 2003. Rotondi, rotondi. Ti devi vergognare, Parenzo. Ti devi vergognare come un ladro. Hai aperto una pagina a caso. No, e hai detto: aspetta, hai detto che aprendo il giornale di Rotondi, sì, il mitico Democrazia Cristiana, organo della Magna Grecia a Sud Europa. Così c'è scritto? Beh, adesso questo sì. Ho aperto il sito sbagliato, cioè il sito Democrazia Cristiana. Ed è apparso come primo articolo una roba di Rotondi del 2003. Hai aperto, vergognati, hai detto una cosa sbagliata. Hai aperto una pagina a caso e hai detto che appariva una cosa del 2003. Invece non è vero. Non è vero. Non invece è vero. Ora dunque, ho chiedi aperto. Scusa a Rotondi, chiedo scusa a Rotondi perché l'articolo era del 2003 ed era la prima cosa che appariva, ma non era il suo sito. Non è, faceva Rotondi, riferimento scusa, al suo scusa, sito. Accettate, quindi, Rotondi. Scusi. Sì, certo, scuse accettate, ma vi do anche una giustificazione, sapete perché? Perché ci sono un centinaio di siti chiamati Democrazia Cristiana, perché non ci siamo solo noi, tra virgolette, sul mercato. Comunque io voglio sapere una cosa, comunque, è uno scandalo il fatto comunque, Rotondi, che lei non sappia nemmeno quanti soldi prende dal finanziamento pubblico. Ma scusa. Non sono mica l'amministratore, comunque. Ma ho capito, ma è lei che decide tutto. Mi sono informato. 298.136, ma lo so. Ho detto 250, sbagliato. Ma ho capito, non sa nemmeno quanti soldi prende lei dal finanziamento pubblico ai partiti. Mica li prendo io. E come non li prende lei? Li prende lei, sì, come no? Io so quelli che ci mettono. Ma quelli che se non prendono. Ci fosse lei, quei soldi non arriverebbero, onorevole Rotondi. No, guardi, le posso dire una cosa. Io sul tema dell'editoria di partito. No, vabbè, adesso il tema dell'editoria. Io le chiedo scusa per questo lei piccolo errore. Però che vuole sapere se ci si guadagna o ci si perde. Glielo dico subito. No, ma qualcuno ci guadagna. Sull'editoria di partito non si guadagna. No, non si guadagna nel senso che si danno degli stipendi, però. Ecco, beh, certo. Esatto, ha colto il problema. Esatto. Infatti, quando problema. Io ero al governo, mi complimento perché il tema è questo. Beh, no, certo. No, ma certo. Perché noi manteniamo i giornali di partito. Per dare degli stipendi alle persone, per dare gli stipendi alle persone. Perché sennò va per strada tutta la gente che ci lavora nella editoria di idee, sì. Che se non la mantiene lo Stato non la mantiene nessuno. Benissimo, ma è benissimo, però vada fino in fondo con questo ragionamento, Rotondi, io la seguo. Posso dare un suggerimento? No, no, posso dire una cosa, poi dare il suggerimento. La cosa è questa. Vado fino in fondo nella provocazione, secondo me la cosa più semplice. Sì. In una testata online gestita dalla presidenza del Consiglio ma dei come? Ministri, ma che assume tutto e chiude tutte queste baracche che si ma ho capito, cioè assume sono baracche, cioè lei riconosce che sono baracche, questo è no, io non ho nessuna difficoltà a dirgli baracche, ma infatti dirigo una baracca, perfetto. L'editoria di partito è una baracca. Benissimo. Oh, che costa finalmente. Un mare di soldi al contribuente. Ottimo. Ma ho capito, E a chi la fa con onestà costa pure, perché siccome lo Stato ti dà il 70%... Cioè a chi non si inguatta i soldi, dice lei, a chi non si inguatta i soldi... Ma il 30 ce lo devi mettere. Se sei onesto, cammini con la schiena storta. Però mi vada fino in fondo. La cosa è questa. Il mio giornale non serve a nulla. Questa no, dice. Questo sì, lo come dite no. Voi. Il mio giornale è fatto da ragazzi in gambissimo. Però serve a dare uno stipendio. Dare lavoro. Ho rimesso un sacco di contributi quando avevo la possibilità di farlo, perché sono ragazzi in gamba e meritano di continuare il loro lavoro. Però allora no. Cambiamo la dicitura. Scusi, Democrazia detto... Cristiana, organo della Magna Grecia, Sud Europa e anche del Magna Magna. Aggiungiamo questa postilla no, sotto. No, la Democrazia Cristiana è il più piccolo giornale tra quelli che hanno un contributo. Ho capito, pubblico. 300.000 euro servono solamente a mantenere delle famiglie. Mi dica io. No, io sto dicendo. Ma l'ha una detto cosa prima, diversa. L'ha detto no, prima all'inizio. Voi mi volete far dire una cosa. Ma l'ha detto all'inizio. Quanta gente ci lavora? L'ha detto all'inizio. Mi ostino a dire una cosa però, diversa. Scusi, non per farle i conti cioè in tasca. Che ma, scusi. L'unità, parliamo del più importante. Ma l'unità è la testata storica del Partito Comunista, poi vabbè, del che PDS, c'è? Vabbè, della sinistra. Se non avesse il contributo pubblico, l'unità reggerebbe come giornale? No, no, no. Secondo voi è giusto che regga col contributo pubblico? Secondo me sì, perché è la voce della sinistra italiana. Ma che è la voce della sinistra italiana? Le cose sono cambiate, non è più così. Lei è ancorato a un mondo che non c'è più, Rotondi, su. Infatti, questo è un mondo ignorante, fatto di straccioni che dicono opinioni forti, per farsi ascoltare, di politici che non hanno letto 10 libri. No, però scusi, Rotondi, non è che chi è contrario al finanziamento pubblico ai giornali è un ignorante, su. Meglio, io rimpiango l'Italia in cui nelle sezioni si leggeva l'Unità, in cui si commentava l'editoriale, in cui si commentava il discorso di Togliatti. Ma è tutto morto, tutto morto. Allora, me lo fate dire, io ho 50 anni e... Ma gli piace così? Ma scusi, Rotondi, scusi, sto facendo due conti, mi dica se sono un coglione, me lo può proprio dire così. Allora, lei riceve all'anno 300.000 euro. Io non ricevo nulla perché non ho nulla lì dentro. Il giornale Democrazia Cristiana, organo della Magna Grecia, Sud Europa. Il giornale a cui io cerco di fare pubblicità perché organizza. E anche 300.000 euro l'anno. Fatemelo dire, l'abbiamo già detto. Al 14 di ottobre a San Vincenzo. Ma l'abbiamo detto tre volte. Benissimo, già. Abbiamo detto te, anche quattro. Ci sarà organizzata dal quotidiano Democrazia Cristiana la festa del popolo. Benissimo. Ma perché poi organo della Magna Grecia? Questo è il no, e fosse quello va bene. Ma è organo Magna Grecia, Sud Europa. Porca miseria, Sud Europa, hai capito? Perché la Magna Grecia è un partito federale. Ma non è federato a niente, a niente. È federato alla DC e poi al popolo. Ma quale DC? Una sorta... Sapete chi fondò Magna Grecia Sud Europa? Ma non chi? So... Ma non mi interessa. Quello che a voi è molto simpatico, ma... Gianfranco Funari. Ecco, ma allora, appunto, poverino, ma di cosa stiamo parlando? Funari fu il fondatore di questo movimento e doveva essere il direttore. Ma quanta gente lavora a questo quotidiano? Voglio solo sapere questo. Quanta gente lavora stipendiata? Facciamo una cosa. Sei persone? No, che sei persone? La prossima settimana, voi invitate il direttore responsabile e gli facciamo un altro che è il suo portavoce, il signor Tarullo, che è il suo portavoce. Allora, io ci conto che lo chiamate e facciamo lui gli dà tutte le risposte. No, ma se lei ha 300.000 euro all'anno e ci sono magari 10 persone, non lei, il quotidiano, ci sono 10 persone. Non ha più senso regalare direttamente questi soldi a questi ogni anno e chiudere il giornale? Gli regaliamo ogni anno una cosa. E chiudiamo la Magna Grecia del Sud Europa. La mia. Siccome non parliamo del giornale della piccolissima Democrazia Cristiana quotidiano, no, dica bene. Parliamo di un segmento complessivo che è l'editoria di partito. Io sto dicendo la stessa cosa vostra se voi non vi accavallaste con la voce. Cioè, quando ero ministro, io proposi a Tremonti di chiudere tutti i giornali di partito e dare gli stipendi alle famiglie. E fare un sito online. Ma come si può fare su? Della presidenza del Consiglio. Ma perché bisogna fare questa cosa? Perché bisogna distribuire Perché se non lo finanzi con un contributo pubblico, no, perché servono l'editoria di idee. Le idee ci sono dappertutto. Il problema è questo. Lei l'ha detto chiaro all'inizio, poi adesso sta tornando un po' indietro. No. Questi soldi qui servono a dare uno stipendio a delle famiglie, punto e basta. Perché... E c'è anche questa motivazione che non mi pare malvagia nel momento in cui si parla di professioni intellettuali. Oh, benissimo. E di gente che no, uno deve essere chiaro, lo Stato regala soldi alle famiglie. No, non regala nulla perché quelli fanno un lavoro che, ma sì, certo, però produzione... di idee che se non ci fossero quei soldi se non ci non hanno un mercato. Ma anche io a un certo punto mi posso svegliare e dico anche io voglio produrre delle idee, perché non mi date 50.000 euro per realizzarle? Premesso che tutti i giornali ricevono contributi e quelli che non sono di partito ne prendono di più. Comunque Rotondi ha detto l'altro giorno che è nel Guinness delle preferenze, pur essendo contrario alle preferenze, cioè secondo un particolare calcolo nel rapporto tra elettori e preferenze, avendo preso nel 1990 8.600 preferenze. Questo non l'ho fatto io il calcolo, ma me l'è venuto a fare un giovane studioso. Cioè lei ha preso 8.600. Ha fatto ridere anche me, però è vera. Lei ha preso 8.600 preferenze su 36.000 elettori nel 1990. Dunque, nel rapporto tra elettori e preferenze, lei è nel Guinness dei primati delle preferenze. Certamente in una città in cui, di 50.000 abitanti in cui votano in 36.000, uno che ne piglia 8.600 significa che uno su quattro l'ha votato. Cioè, con la meglio di chi? Meglio di tutti? È una cosa che all'epoca fece molto rumore. Cioè, io sono meglio alla fine? No, mica meglio, mica è detto sapesse quanti mascalzoni hanno preso preferenza. No, però voglio dire, dal punto di vista numerico, lei è andato meglio di Andreotti, Berlusconi? In proporzione alla popolazione, in quel test sì. Poi ci sarà sicuramente il sindaco di un comune piccolo che all'epoca avrà preso ancora più preferenze, ma parliamo di piccoli comuni. Io le ho citato una città di 50.000 abitanti. Va bene, Rotondi, grazie. Berlusconi che deve fare? Facciamo la solita domanda classica, tanto tornare Berlusconi in casa. Berlusconi deve fare Berlusconi, cioè? E vincerà ancora una volta. Ecco. Vincerà ancora una volta su Rotondi, ma ormai è tutto finito. Lei non pensa che sia tutto finito? Cioè che il PDL si sia praticamente dissolto negli ultimi mesi? Io penso che il PDL non si sia dissolto, che le possibilità di vittoria ci siano tutte, e se volete il prosieguo vi aspetto a San Vincenzo. Ancora? Basta, pubblicità, grazie. Però, allora facciamo così, io ricambio lo spot pubblicitario. Nell'ambito della festa vi do uno spazio, fate la trasmissione da là. Ah beh, sai. Beh, questo potrebbe essere molto autorevole. Impazzate nella festa, disturbate tutti gli ospiti. Questo potrebbe essere una cosa. Una esclusiva di 2 ore in cui noi cacceremo fuori tutti gli altri giornali e diamo l'esclusiva a voi. L'esclusiva del... Beh, io sono già a quest'ora, si può dire, sono già arrazzato a questa idea. Ci dà l'esclusiva del suo congresso. Siccome mi avete consentito di far pubblicità sia al giornale che l'organizzo, che alla festa, io devo ricambiare. Vi concedo un'esclusiva, uno spazio di 2 ore. Beh, l'esclusiva, però, con Alfano. Ma con chi l'esclusiva? Senta, l'Italia di Casini, che Italia è secondo lei? Un'Italia governata da Casini, che Italia potrebbe essere? No, parliamo di Pier Ferdinando, immagino, sì, perché come me l'avete detto voi, l'Italia dei Casini è tutta un'altra cosa, insomma, è un'Italia molto antica anche quella. Ma le piacerebbero i Casini invece, tornare ai Casini, alle case chiuse, eccetera, mi dica la verità. Ma io devo essere sincero. Sia sincero. La legge Merlin credo che sia stata una grande conquista della dignità delle donne, per cui non torniamo indietro. E invece l'Italia di Casini è un'Italia che le fa orrore, governata da Casini, no? Insomma, ho le idee più chiare sulla legge Merlin che sulle proposte politiche del nuovo partito dell'onorevole Casini, quindi aspettiamo. Italia è un nome un po' fregato Berlusconi, questo Italia, Ma Italia intanto è il paese che tutti amiamo, quindi ognuno lo può mettere nel simbolo. Un po' Berlusconi ci è rimasto male, Non credo proprio, mica l'Italia è di Berlusconi e di Casini. Ma è veramente tonico, è tornato tonico, carico Berlusconi, l'ha sentito? Berlusconi sta riflettendo e credo che presto darà delle indicazioni che potranno essere anche diverse da quelle che tutti si aspettano. Meglio che continui a riflettere allora, vero? Eccoci qui, Sandro da Roma, buonasera, 800 24 00 24, la zanzara continua. Non vorrei però fosse male interpretato il mio messaggio, che mi sto ingrifando all'idea di San Vincent, perché mi arrivano decine di messaggi di gente che dice se te piace così, cioè se ti ingrifa San Vincent. Non è così, amici, non è così. Sandro. Sì, buonasera. Pronto? Vada. Sì, buonasera. Ho telefonato prima di tutto, complimenti per la trasmissione, poi ho telefonato per la questione del finanziamento ai partiti. Poi guarda caso c'è stato l'intervento dell'ex ministro Rotondi che capita a fagiolo. Io personalmente non sono molto d'accordo su questo sparare a zero sul finanziamento pubblico ai partiti, nel senso che, mi passi il termine, è un po', penso che sia un errore confondere appunto l'errore con l'errante. L'errante, cioè? Questo è bello. Sì, vede, l'errante, possiamo dire che l'errante può essere il lusi della situazione, il fiorito o anche quello che abbiamo sentito dall'ex ministro Rotondi, insomma, si riesce a immaginare di cosa si tratta, cioè di un uso scellerato di denaro che viene dato ai partiti a vario titolo. Il problema, secondo me, è che il finanziamento ai partiti, da un punto di vista, come dire, di filosofia, invece è una cosa corretta, giusta, perché è una garanzia democratica. Lei provi a immaginare, per esempio, senza finanziamento ai partiti, cosa succederebbe? Chi ha molti soldi, come... Ma non è vero, non è così. Berlusconi avrebbe la possibilità di finanziare campagne elettorali faraoniche, e invece magari qualcuno che ha delle buone proposte ma pochi soldi rimarrebbe in silenzio. Ha ragione su questo in parte. A questo punto il finanziamento pubblico ai partiti, da un punto di vista di filosofia, è corretto, andrebbe regolamentato e reso trasparente. Ha ragione. Non c'è neanche l'obbligo di depositare, guardi, il bilancio alla Corte dei Conti. Secondo me l'unica cosa da fare è chiudere il finanziamento pubblico ai partiti, inventarsi un'altra cosa, ma chiuderlo. Per adesso chiuderlo, poi riflettiamo, lasciamo una quota del 10%, trasparenza conto, assoluta e tutta. Chiuderlo. Uno, come dire, deve andare a bussare, toc toc toc alla porta dei cittadini, certo, dei privati, toc toc, mi date i soldi per favore, vi piacciono le idee, mi date i soldi? Sì, no, sì, l'Italia, no. L'Italia non è pronta a questo tipo di cose, si rende conto che è un problema. L'Italia non è mai pronta a nulla. Abolire completamente il finanziamento pubblico. A parte che era stato deciso con un referendum. Togliere la voce a chi ha delle idee da proporre. Ma non è vero, non è così, è la solita. A quelli che hanno soldi. Non è vero, non è così. Comunque, secondo Libero, così mi suggerisce il mitico non leggerlo, Berlusconi avrebbe detto a Casini e Fini, per la storia del simbolo, opportunisti, traditori, illusi, stronzi. Beh, l'ultima soprattutto è abbastanza... Grazie, Maurizio dalla provincia di Modena. Buonasera Cruciani. Come sta? Io la volevo salutare. Sì. E volevo dire che questa sera verso le 18.40 mi ha offeso personalmente perché ha pronunciato con superficialità il nome di Dio Cristiano. La prima reazione è stata quella di rabbia. Poi ma era un'imprecazione, no, naturalmente. Posso finire? La seconda reazione, sì, ho capito che la reazione più cristiana era quella di perdonarla. Allora, Cruciani, io la perdono. E le chiedo perdono per non essere intervenuto tanti altri giorni su tanti altri argomenti su cui potrei comunque intervenire. La perdono, prego per lei e l'abbraccio. Grazie. Mi scuso se naturalmente l'imprecazione, che non è una bestemmia naturalmente, ma è un intercalare che peraltro non uso, possa aver offeso naturalmente qualcuno, ma non c'era assolutamente. No, io lo so, ma... È come dire oh my god. È come dire oh my god, Mr. Cruciani. Comunque, io rispetto It's tutti. Fall down my cellular, ad esempio. È caduto il mio cellulare. Allora, io però con tutto il rispetto e con tutto l'affetto che ho nei confronti del signor Rotondi, Rotondi, 300 sì, no, perché la persona mi sta simpatica. Allora, il quotidiano testata Democrazia Cristiana, edito dalla Balena Bianca, piccola società cooperativa, grazie a non leggerlo, non leggerlo, sito online, blogger, eccetera, eccetera, Balena Bianca, piccola società cooperativa giornalistica, l'hanno chiamata anche Balena Bianca. Sì. 303.000 importo liquidato nel 2010, 303.204,78. Ora qualcuno mi fa notare, bisogna vedere il numero di visitatori, perché con questi soldi quanta gente che produce idee, certo, che produce idee si può mantenere con 300.000 euro l'anno, appunto, con poco più di 300.000 euro l'anno, diciamo la verità, perché devono andare a finire alla Balena Bianca, detto con tutto il rispetto. No, senza nessun rispetto, bisogna dirlo. No, sempre con rispetto, sempre con rispetto. Quasi pieni di speranza. Ma quanti formaggi Alex da Milano. Quanti formaggi avremmo comprato con quella cifra lì? Sì, vada. 300.000 euro. Io volevo intervenire sull'onorevole che è venuto ieri da voi, Signoretti, mi sembra, giusto? No, Sposetti. Tesoriere. Grazie. Perché lui era contrario, diciamo, alla candidatura di Renzi, perché è una persona cresciuta con l'isola dei famosi Grande Fratello, comunque troppo giovane, non cresciuta con i suoi ideali. Sì, esatto. Ora, io ho 27 anni e non credo che sia una mia colpa essere nato negli anni 80. Non credo che sia un suo merito essere nato negli anni 50, e soprattutto credo sia un demerito, se non suo, comunque di tutta una serie di classe politica, il fatto che la gente nata negli anni 80 abbia dovuto sorbirsi il Grande Fratello dei famosi, TV privata e pubblica. Quindi su questo è bene che lui magari se ne faccia un pensiero. Secondo, tenendo conto che lui ha 66 anni, a quanto ricordo, è bene anche che faccia un pensiero sul fatto che lui non potrà governare in eterno. Tenendo conto che ha già fatto 4 legislature andando oltre lo statuto del PD di cui tanto si vanta, è bene che ogni tanto lasci spazio anche ad altre persone, forse. Va bene, grazie Emilio da Torino, buonasera. Prima però, io la devo aspetta, andare a Lodi dalla Ma hai Lega. Detto 20:40, hai detto prima 20:30. Però 20:30. Sì, appunto, mancano 10 minuti. Prima però, e che fate, i buchi? Appunto, dalla Lega devo andare io. Vale. Ciao, sono Michelangelo da Carnate, Padania Libera e Forza Bossi. Ascolta, a proposito di razzismo, volevo farti così venire a conoscenza di un episodio. Io da circa un mese sono seguito da un gruppo di camorristi dementi, perché ho avuto da ridire con un mio vicino napoletano camorrista, e parte di questo gruppo di camorristi dementi è composta da negri, in questo caso mi piace usare la G bella dura, negri, che così mi seguono giorno e notte nel tragitto casa-lavoro, eccetera. Beh, questo è il mitico Michelangelo da Carnate. Questa è Radio Ku Klux Klan. È Radio Padania. No, no, è Radio no, no. Padania. Io voglio dire, vogliamo tra un po' vado all'ordine dei leghisti, ma questa qui è Radio Ku Klux Klan. Voglio ripeterlo. Sento che ti pigli due bastonate là, due schiaffetti magari. Perché secondo te due gente schiaffetti. Ti piacerebbe? No. Perché gente, ma gente che telefona e dice queste cose razziste e vergognose. E come si chiama lì il giornalista, il collega? Come si chiama? Pellegrin. Signor Pellegrin. Risponde in questo modo, sentiamo. Dai, ma di che parliamo? E volevo sapere, per queste persone posso usare la parola negri o per caso qualcuno tipo Shukri Said si potrebbe offendere? Perché comunque sono gente di merda, ecco, dello stesso colore della merda. Volevo sapere tu cosa ne pensi, ciao. È la storia che ha cambiato il termine di questo sostantivo, che ha assunto negli anni appunto un connotato offensivo, ripeto. È una concessione, è anche un atto di resa non usare più questo termine, perché io ci ho provato a rivendicare la mia libertà di usare un termine come l'ho sempre conosciuto e come l'ho usato, però davvero per questo dico che andarsi. Beh, io vorrei riuscire a beccare questo Michelangelo da Carnate, vi prego, Michelangelo, cioè, da Carnate. L'ascoltatore razzista, dici? L'ascoltatore che ha detto che è inseguito da camorristi dementi perché un suo vicino napoletano gli fa la guerra, che parte... Pronto? Di... Pronto? Sì. Michelangelo? Sì. Beh, è razzista? Ma è quello inseguito dai camorristi negri? Sono io. Ah, razzista! Come sta, razzista schifoso? Sto benissimo, grazie. Le restituisco l'epiteto perché non mi riconosco in esso. Comunque sto abbastanza bene. Ma scusi, signor Michelangelo, ma, come, ma mi racconti questa storia che lei ha detto a Radio Padania? Cioè, lei tanto è... ripeta quello, se ha coraggio, ripeta quello che ha detto a Radio Ku Klux Klan poco tempo fa. Se ha coraggio. Cioè? A parte che non è Radio Ku Klux Klan, il razzismo mi sembra nei confronti dei vostri colleghi, visto che fate pure finta di non ricordarsi il nome, ve lo ricordo io, si tratta di Pellegrin. Pellegrin, sì, cioè Pellegrin, l'abbiamo detto, Pellegrin. Collega giornalista Pellegrin di Radio Padania, certo. Allora... Io confermo tutto quello che ho detto, cioè che da circa un mese e mezzo sono appunto seguito da persone dell'onorata società napoletana. Ma chi l'ha detto? L'onorata società napoletana non insegue un pirla come lei, francamente, quella è gente seria! È sicuro? Ma scusi, scusi, lei perché non viene a farsi un giro? Io abito a Carnate. Ma perché lei, 6, ma scusi un attimo, lei venga a vedere. Michelangelo, perché lei sarebbe inseguito dai camorristi? Adesso, oggettivamente, perché? Diciamo per uno sgarro che ho fatto al mio vicino di casa. E che ha fatto? Gli ha rubato il gatto? Che ha fatto? E il suo vicino di casa agli arresti domiciliari. Lei sarebbe inseguito da camorristi? Sì, praticamente c'è stata appunto una animata discussione. Per questione, diciamo, condominiale. E vabbè, e da quel momento in poi lei sarebbe inseguito da camorristi. Che significa poi tecnicamente essere inseguiti dai camorristi? Diciamo pedinato, ecco, pedinato dai Carnate. Vabbè, comunque, mettiamo che sia vero. Perché secondo lei all'interno di questi... La ringrazio almeno per avere così instillato il dubbio nel suo ascoltatore. Ma lei ha denunciato tutto alla questura, ai carabinieri? Sì, naturalmente, no, ha denunziato tutto, no? Naturalmente è stato fatto tutto quello che va fatto. Indagini approfondite. Senta, ma scusi, questa storia, all'interno di questo gruppo di camorristi ci sarebbero anche dei neri? Ma dai, ma gli vai, come dice? Dei neri che io... No, negri, dica negri, perché lei dice negri. Sì, no, appunto, io mi sono piccato di chiamare negri con la G, perché mi... Va bene tutti i moralisti del mondo, ma se qualcuno, diciamo, viene a farsi i fatti miei e non viene qui per integrarsi... Per lo chiamo negro, lo chiamo negro, anche negro di M, no? Sì, sì, qualunque epiteto va bene, diciamo che se uno è grasso lo chiamo palla di lardo, eccetera, eccetera. Chiaro che è una persona proprio per bene. Grassi, palla di lardo, però... No. Se sono gente che anziché fare come dire la gavetta, lei come li chiama? I camorristi, io cerco di colpire nel segno e di insultarli. E come se uno è basso, come lo chiama? Nano di merda, ad esempio. No, se uno è un po' basso, un po' nano quello di merda. Quello che vuole. È una persona molto per bene. Io sono abbastanza lei. Panciuto. Se pedinassi qualcuno e questo qualcuno mi chiamasse palla di lardo, oppure non lo so. Ma scusi un attimo, però, signor Michelangelo. secondo me avrebbe anche qualche ragione. Scusi Michelangelo, voglio dire una cosa, ma perché all'interno di questo gruppo di camorristi lei dice che ci sono dei neri, dei negri? Signor razzista, risponda, signor razzista, per cortesia. Scusi, ma lei come chiamerebbe delle persone che la pedinano per, come dire, incutere timore e soggezione da parte di un bastardo camorrista e domiciliare, eccetera, eccetera? Che io non ho nessuna intenzione di scendere a patti con certa gente. No, ma ho capito, ma lei è inseguito da un gruppo di camorristi tra cui gente di colore. Esatto, tra cui anche persone di colore. Bah, c'è una cosa veramente assurda. Guardi, facciamo così, lei anziché... Ma non ci penso nemmeno lontanamente, Michelangelo, a venire a Carnate in provincia di Monza. Beh, comunque è notizia di reato, quindi... Qualcuno se ma vuole no, fare un giro anche ma l'ha già fatto lei, ha già denunciato lei. Sì, sì, ma infatti quello non c'è problema. No, però mi interessa non, più un'altra non aspettavo certo l'illustre Radio 24 per, no, per queste cose. Però scusi Michelangelo, che qualcuno proprio mette in dubbio le mie parole, io sarò anche l'ultimo dei pirla, però dico venite a vedere con i vostri forse. Occhi, almeno i vostri occhi crederete. No, ma noi siamo sconvolti, io almeno, dal linguaggio che lei utilizza. Aspetti, poi... tra l'altro ha utilizzato un linguaggio nei confronti di questi neri, sentiamo. Negri, no, chiamiamoli negri. No, ma li chiama lei negri. Ma lei li chiama ma negri, siccome lei è un razzista. Se vogliamo, li chiama così. Se vogliamo fare gli ipocriti, io ci lavoro anche con un musulmano. Io lavoro in un'azienda agricola e questo qui è un musulmano. E a me non me ne frega assolutamente niente. E non mi sognerei mai di chiamarlo negro. Però le fa un po' schifo questo musulmano. Arabo del cazzo, non lo so, qualunque cosa. Beh, però non è una persona che mi pedina o si fa i fatti miei. Mettiamola così. Sentiamo quello che ha detto. E volevo sapere, per queste persone posso usare la parola negri o per caso qualcuno tipo Shukri Said si potrebbe offendere? Perché comunque sono gente di merda, ecco, dello stesso colore della merda. Volevo sapere tu cosa ne pensi, ciao. È un intervento molto moderato. Ribadisco, per queste persone, non so se hai sentito tutto l'intervento, ho detto per queste persone. Per queste persone, cioè quelli, negri. Quelli che la seguono, dice, quelli che la inseguono. Signor razzista, volevo chiederle questo, signor razzista. Sì, grazie. Sì, ringrazio Parenzo. Lei per me è il signor razzista. Potremmo anche essere della stessa, come dire, idee non politiche, ma sicuramente religiose, comunque la ringrazio. No, ma non c'è, lei, in che senso? Non capisco. Lei, tecnicamente... potrei essere perfido giudeo anch'io, ecco. Vabbè, ma infatti questo dimostra che anche tra di noi ci sono dei problemi. Se non tutti gli ebrei sono se lei lo fosse, dimostrerebbe che non tutti gli ebrei sono intelligenti, come spesso purtroppo viene detto, lei ne è la prova, lei ne è la prova. Quindi signor razzista, lei ritiene... Ascolti, mettiamola così, signor razzista, lei ritiene... uno di questi per caso pensasse che io ho poco piombo nel sangue dalle analisi e pensasse di mettermene un po' lui, cosa faccio? Lo devo anche ringraziare o non devo passare per razzista o posso insultarlo? No, così per capire. No, ma lei può insultare chi vuole. L'intelligenza superiore del suo collega Parenzo. Ma la sua denuncia... a me incuriosiva, al di là degli epiteti eccetera che non mi stupiscono. Siamo qui a prenderci in giro, allora possiamo dire abbraccia, posso fare come fanno loro per fare scena, come nei libri di Stefano Benni, Basport 2000, dove si danno virili toccatine nei coglioni, grandi abbracci per far vedere che loro non sono razzisti a Napoli e si vogliono bene tra bianchi e neri, eccetera, eccetera. È peccato che poi fanno queste professioni qua, insomma. Come integrazione forse è meglio quella del prosindaco di Treviso Gentilini, che magari non sarà un simpaticone, però lì la criminalità mi pare che sia molto diversa rispetto comunque a ancora ho dei dubbi su questi camorristi di colore. La ringrazio, Michelangelo. Cazzuto, fate quello che volete, a me non cazzuto, cambia la vita. Comunque vi ringrazio per la telefonata. Cazzuto, Michelangelo. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Eccoci qui, 800240024, Enzo da Palermo. Buonasera, Enzo. Pronto? Vada. Sì, buonasera, dottor Cusciani. Allora, io desidero fare una considerazione a proposito. Sì, ma lei ha il viva voce, cos'ha, Enzo? La voce. Sì, lo tolgo, sì. Lo tolga, sì, grazie. Sì, allora? A proposito della dichiarazione di D'Alema sulla capacità o meno di Berlusconi di saper governare, sì. Tant'è che ha detto che il proprietario di Cacio e Pepe l'avrebbe fatto meglio, insomma. Ecco, dopo Berlusconi chiunque avrebbe fatto meglio, persino il proprietario del ristorante Cacio e Pepe sotto casa sua, il signor Gianni, il mitico Gianni. Che però oggi ha detto a D'Alema, no, in realtà io non sarei stato capace come Berlusconi di governare, dopo un giorno mi avrebbero cacciato a calci dal sedere. Guardi, io sono stato un dirigente d'azienda, ho lavorato tanti anni a Pomezia, adesso vivo a Palermo. Le dico questo, l'azienda per cui io lavoravo ha subito nei primi anni 80 una visita della finanza e per concussione, non certamente perché hanno trovato chissà che cosa, dopo 3 anni da quella visita, quando poi la finanza ha dichiarato che potesse continuare ad operare, quell'azienda comunque non si è più ripresa ed era un'azienda che fatturava 80 miliardi all'anno. Allora? Ecco. Ora, come si fa a non ammirare una persona che di visite di quel tipo ne ha subite parecchio? Ma chi sarebbe? Chi sarebbe? Berlusconi. Ma che, perché uno deve ammirare Berlusconi ha subito le visite della finanza? Scusa, è piuttosto curioso. Ma non è, adesso forse io un po' adesso non voglio. Io tra l'altro sono. Non mi occupo di politica, semplicemente faccio. Però Enzo, abbia pazienza. Enzo, o mi dice qualcosa di concreto, di sensato, oppure io devo cassare questa telefonata nel più breve tempo possibile. D'Alema, quando Berlusconi aveva subito. Parenzo, aiutami tu anche al telefono. Beh, adesso intanto saluto le maestranze della 7. Ma chi se ne frega, dai, su. Questo signore qui è in un grave stato confusionale, più che altro, ma gravissimo stato confusionale. Dovrebbe darci immediatamente l'ASL di riferimento, di territorio. No, prima dell'ASL facciamolo completare, poi casomai chiamiamo l'ASL. Ma come completare? Non c'è nulla, cioè uno deve completare un ragionamento, no? Qui non c'è un cazzo da allora, completare. Allora, Enzo. Sì. Posso fumare una sigaretta in macchina? Ragazzi? Allora, dottor Cruciani, io le devo dire, tanto sono un ascoltatore fedele di Zapping, però seguo ogni tanto anche lei, perché vedo che lei, insomma, ha un piglio particolare. Volevo comunque non esagerare nel dirle che il signor D'Alema, e uso un eufemismo, definirlo ingrato è poco, perché avrei voluto dire me ne assumo la responsabilità. Ma con chi? Ingrato nei confronti di chi? Di Berlusconi. Perché di Berlusconi è colui Parenzo, la chiami tu oppure no? Credo che sia già in viaggio, perché ho ricevuto. Ma una perché dovrebbe essere grato a Berlusconi? Scusi. Dai. Semplicemente perché quando lui, dopo aver subito l'inciuscio, quando ha ricevuto il famoso, lei si ricorderà a Napoli, quello che poi anche la voce molto calma, così già sedato. Ecco, quando c'era lui al governo, è stato necessario che l'Italia facesse un intervento quando c'era in corso la guerra appunto in Bosnia, in Jugoslavia, per meglio dire, Kosovo, allora. Jugoslavia. Il signor Bertinotti, contrario da sempre alle guerre, aveva minacciato che allora? è già sedato. Enzo, ma perché dovrebbe fatto essere cadere il governo, no? Ah, lei dice che Berlusconi in quel caso sostenne il governo D'Alema nella cosa del Kosovo. Benissimo, lui sostiene allora il governo, e il governo di D'Alema non è caduto per mano di Berlusconi. Vabbè. Che avrebbe che poteva anche esimersi dal votare a favore. Vabbè. Di questo invio delle truppe. Ho capito. Però voglio dire, questo signore che dice che lui non è capace di governare ha dimenticato che una persona che dirige migliaia di persone ha fatto esperienza sul campo. Va bene. E quindi sicuramente una capacità. Lei è rimasto comunque uno di quei berlusconiani proprio dentro il cuore, mi sembra di capire, caro. No, Enzo. Ma guardi. No, mi dica la verità, lei è rimasto molto io berlusconiano. Io sono uno di quei berlusconiani. Ormai non si riesce mai più a dire. Per il semplice fatto che io lavoro da 40 anni sul campo ed è questo che forma la gente. Ma ho capito, non è che se uno lavora sul campo da 40 anni è per forza berlusconiano, abbia pazienza. Come? Enzo. Non è che se uno lavora da 40 anni sul campo diventa automaticamente berlusconiano, perché altrimenti sarebbe no, vero di berlusconiano. No, perché capisco quali sono le difficoltà nel condurre una microazienda come la mia. La ringrazio, quindi Enzo, la ringrazio moltissimo. Ci vediamo, la vengo a trovare nel weekend all'ospedale. Emilio da Torino, buonasera. Buonasera. Vada. Vorrei solo dire una prima cosa, che siete due pezzi di simpaticoni, che mi fate passare 3/4 d'ora in viaggio. Meno male, da che ora? Che da che ora? Velocemente. Da che ora, Emilio? Dalle 8:15 fino a fra 5 minuti che arrivo a casa. Dica allora. No, ma accenda allora, prima la radio, scusi, mettiamo alle 6:30. Se quello entra in macchina alle 8:15, entra in macchina. Ma prima, come si permette? Perde la parte migliore, 18:30, 19, dove c'è questa copertina straordinaria, si vergogni? Vabbè, allora Emilio, su. Un po' mi vergogno, perché devo anche lavorare un pochino, visto che il lavoro bisogna anche fare. Beh, certo. E ho sentito quel bel ministro, no? È stato ministro di Berlusconi. Beh, ministro, ministro per l'attuazione del programma, su, dai. Ecco, quel signore lì. Allora? Ecco, che non ha, cioè, lei giustamente dice, non è vergogna, ma quei 300.000 euro che prendi inutilmente, se lo trovo proprio di un. Non solo lui, tutti questi partiti che prendono questi denari. Sì. Lei giustamente diceva l'altra sera, se una fabbrica è in deficit, si chiude, giusto? Sì. Quindi se un giornale di partito è in deficit, siccome ci sono già 4.000 giornali, riviste, credo che in Italia ce ne abbiamo di tutte le scelte possibili e immaginabili, si chiude e il denaro si dirotta, come dice lei, a usarlo in modi migliori, non in questo ma modo. Ma Emilio, il ragionamento è molto chiaro. Rotondi parlava di circolazione di idee per giustificare il finanziamento pubblico ai giornali. Io sono totalmente contrario, lo dico subito. Conosco carissimi amici che lavorano in tanti giornali finanziati dai partiti, ma io sono pregiudizialmente contrario. Cioè non posso immaginare qualcosa che non si regge se non con i soldi del mercato, con i soldi del pubblico. Tutto il resto, certo, si può capire una piccola quota dello Stato, si può ragionare cosa deve fare lo Stato, cosa non deve fare lo Stato, alcuni giornali in che modo possono sopravvivere, eccetera, eccetera. Ma diventa comunque uno stipendificio quando non c'è, come dire, un numero di copie necessario a far sopravvivere quel giornale. Gastone della provincia di Vicenza. Buonasera Cruciani. Vada. Intanto volevo dire che ieri sera è salito di 20 punti nel mio indice di gradimento quando ha dato l'appoggio a Riccardo contro Parento, perché io da 32 anni lavoro per conto mio, non ho nessun tipo di assistenza, per cui mi prendo tutto quello che devo prendermi. Ma anch'io lavoro per conto mio. Bravissimo. Caro no, Gastone. Parento, lei si permette di giudicare Gastone. Le persone e di dare un giudizio sull'intelligenza, lei non ne ha facoltà, mi permetta. Gastone! Come fa a dire una persona che non è intelligente perché è razzista? È una persona intelligente, razzista. Sturi le orecchie con un cotton fioc bianco, vedrà che uscirà tutto giallo. Le sue orecchie, ma oggi di cotton fioc con lo scopino del water. Cazzo, lei non può dare delle persona poco intelligente ad uno perché non sopporta i mezzi. Usi anche lo scopino del water, esatto, per pulirsi le orecchie, bravo. Usi lo scopino, perché forse lei non ha sentito, ma è un problema, va dall'ottorino laringoiatra. Benissimo, io odio l'Islam, è un quoziente intellettivo sicuramente superiore al suo. Le pago una visita per migliore ottorino laringoiatra. Sti infoibati, questi deficienti che ammazzano gli ambasciatori, ma scherziamo. Ma non ho capito qual è, ma scusi. Prenda un delirio. Non sono umani d'oro. Gastone, basta. Un attimo solo, qual è il motivo del contendere? Che mi ha seccato che Parenzo abbia dato del poco intelligente alla persona di prima. No, ma in realtà ha dato del razzista a quel signore. Cioè, che ma poco intelligente. No, no, Michelangelo. Lei di chi sta parlando? Il signore di primo o Michelangelo? Non ho capito. Michelangelo, quello... Cioè, allora, Michelangelo... per alcune espressioni usate nella telefonata a Radio Padania, in particolare... Vabbè, ma non si può dare una persona che è poco intelligente. Ma non vabbè, ho capito, ma questo è anche lo spirito di questa trasmissione, cioè Gastone, vabbè, in cui se lei dice per strada, lei è un cretino. Io l'ascolto da sempre... Per cui so benissimo come si comporta, che espressioni ha. Però Parenzo a volte non mi piace, come non siccome mi è molti ricerco, si permettono, siccome molti nello spirito di questa trasmissione danno a me del deficiente, e io sicuramente non mi offendo perché sto alla battaglia, invito il signor Gastone, attualmente in linea con noi, a prendersi un bel pacchetto di cotton fioc e sturarsi le orecchiette, oppure fissare per lunedì una visita dal miglior ottorino laringoiatra. Io ci sento benissimo. Ma allora non capisce. Allora non capisce che è ancora più grave, capito? Dell'imbecille, allora, se lei è ignorante una persona, perché se lei ci sente, Gastone, diciamo anche di peggio noi, eh. Se lei ci sente, Gastone. Se lei sente, Gastone, è ancora più grave. Un razzista, va bene? Come? E non mi vergogno e sicuramente non sono poco intelligente. Fine. No, lei è un razzista. Io difendo la mia razza, non perché opprimo le altre razze. Che è diverso? Non esistono le razze, esiste solo la razza umana. Le zanzare di casa di me, quando il giorno scivola via, si svegliano per me, quando tutto sembra... Fabrizio da Pesaro, eccolo qui, Fabrizio. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, finanziamento pubblico ai partiti, oltre che ai giornali, finiamola, finiamola con questa rapina che viene perpetrata dal 94, che credo sia l'anno in cui noi ci siamo espressi come popolo italiano nel dire stop al finanziamento pubblico ai partiti. Questa è una rapina, nessuno lo dice. Io per questo brucerò la mia tessera elettorale, brucerò la mia tessera, perché tanto è perfettamente inutile che si continui ad andare a votare per questo status quo. Status quo. Viviamo con queste persone privilegiati, parlo anche del Presidente della Repubblica, ma chi l'ha detto che deve vivere in quel mega palazzo, in quella reggia dorata? Mi sembra che ci sono presidenti scandinavi che vivono in 150 metri quadrati, tranquilli, magari sì, scortati, perché sono giustamente persone pubbliche, ma non c'è bisogno di tutto quanto quell'appannaggio di cui godono le personalità più alte, ma anche quelle medie e anche i semplici parlamentari. È ora di finirla. Giustamente, se un'azienda non funziona... Ma ha ragione Fabrizio, basta con questo finanziamento pubblico, basta. Che potenza clamorosa. Bisogna bruciare la scheda elettorale, proprio una protesta clamorosa, incredibile, piena di coraggio, incredibile. Beh, piena di coraggio adesso, che sei ironico? Appunto, sei ironico? Direi proprio di sì, una protesta, no, che mette proprio in discussione, no, che lo porta come quegli operai che salgono a 100 metri, è uguale, per giorni e giorni, è una protesta clamorosa, davvero incredibile, proprio mette in discussione la persona, Ma perché sei così stupido? Perché sei così stupido? Quando uno dice, per ti presenta una cosa come fosse incredibile, ma non te la presenta come fosse incredibile. Elettorale. La vera battaglia gandhiana e non violenta è quella di mettere i propri corpi e pagare le conseguenze di quello che si fa. Ma che questo dici? Brucia la testa elettorale, chi se ne frega, non va a votare, va benissimo, d'accordo, è una sua scelta, ma che clamorosa è, brucerò la tessera elettorale, chi se ne frega, brucia la tessera elettorale, paghi qualche conseguenza di quello che di questo gesto clamoroso che hai fatto. No. Beh, effettivamente chi bruciare la tessera elettorale, cioè, significa non andare a votare, però. Ma lei capirai, chi sale a 100 metri per dei giorni, sta col suo corpo lì sopra, privato dei propri affetti, senza mangiare né bere, quelle sono persone che mettono... Soldi pubblici da cancellare, come per esempio quelli che lo Stato manda alle imprese per gli incentivi che spesso non servono a nulla, soldi buttati su cui dovrebbe intervenire. Non c'era un consulente una volta, pure Giavazzi. Silvana Grasso, la mitica professoressa di greco e latino, nonché ex donna di Rosario Crocetta, buonasera. Ma quando mi siete mancati, non ex, ma nei sogni, perché mi manda messaggi il vostro amico Ancipite, mi manda messaggi che sogna la mia telefonata, quindi pensi il valore che possa avere io anche solo in un miserabile euro. No, la sento male, scusi, signora Grazia, non ho capito bene. Anche io la sento male. Ecco, perché benissimo. Non sono a casa, ve l'ho detto. Io la sento benissimo. Dunque, Crocetta le manda ancora dei messaggi. Sì, sì, sì. E cosa scrive in questi messaggi? Dice: stanotte sognavo che mi chiamavi. Che tra l'altro poi eppure da un punto di vista della consecutio temporum, anche una sciabolata, una scelta sulla consecutio. Stanotte sognavo che mi chiamavi. E allora? E poi dopo? No, esatto, perché oltre la chiamata lui non poteva andare, insomma il massimo che può segnare qual è? Una telefonata, giusto una telefonata. No, ma insomma, quanti messaggi ci sono che riceve dal signor Crocetta ogni giorno? No, questo perché... Io impegno le mie notti più proficuamente che al telefono. No, quello d'accordo, però le manda ancora dei messaggi, questa è la notizia. Sì, giusto? Io ho un languido, miserino messaggio, a presente come quelle tenie solium, come quei vermi solitari che alloggiano per decenni negli intestini e non se ne vogliono andare. Così percepisco la sua presenza, come una tenia solium a cui mi sono abituata. Hai capito, un condomino delle mie viscere. Vabbè, questo è un condomino delle sue viscere. Questo dimostra che il candidato alla regione un bel verme solitario. Un bel verme solitario, sì. Questo dimostra che è un uomo, io lo posso dire, che è innamorato, che è un uomo che ha una sensibilità, sì. E lei in questo modo sta allontanando quel grande amore che c'è stato tra di voi, quella grande passione, quella sovrapposizione di corpi che c'è stata, e lei in questo momento sta denigrando un grande amore, un uomo carico di passione e carico di voglia di abbracciarla. E questo è brutto, perché qualcuno più noto di me, lei lo disse, odo tamo. Senta, scusi, sì, certo, scusi un attimo, ma ha letto della vicenda del signor Sgarbi? Questa diatriba tra lui e Toscani, insomma, sulla potenza o l'impotenza di Sgarbi. Sì, ma guardi, lo vedono cibarsi più che di seni di femmina, di fichi d'India in quel di Piazza Armerina, in quel della Villa del Casale. Ma chi, Sgarbi? La ricerca di fichi d'India, sì. Che significa la ricerca di fichi d'India? Mangia fichi d'India notte di... Perché i fichi d'India, insomma, questo però non si dica molto, non si diffonda voce, sono il Viagra dei pecorari della zona. Sono il Viagra dei pecorari della zona. Dei pecorari della zona, sì. Ma chi l'ha detto questo? Ma questo lo dice Simona Grasso, è grande esperta di Sicilia, professoressa di greco latino. Assolutamente, ma esperto soprattutto dei fichi d'India. Ma scusi un attimo, ma questa storia della... Lei voglia che non ne abbia io raccolti quintali per tutti gli uomini che ho dovuto sanare? Eh beh, no, sicuramente ne avrà raccolti quintali. Senta, signora Grasso, ma lei l'ha conosciuto Sgarbi? Prego, la sento male, prego. L'ha conosciuto Sgarbi? Guardi, io sono stata graziata per ben tre volte da questa conoscenza. Cioè? Perché per ben tre volte, una volta in libreria, mi ha... quasi sequestrata, rincorsa, acciuffata. Pensi, la prima volta mi sono finta muta, la seconda gravemente schizofrenico autistica. Scappò. E con questo scappò straordinario, è scappato. Sì, la ringrazio Silvana, ci sentiamo presto. L'abbraccio fortissimo. Apprezzo sentirci, è bellissimo. Silvana Grasso, professoressa di greco latino, nonché ex fidanzata di Rosario Crocetta, candidato del Partito Democratico e dell'UDC e di altri alla presidenza della Regione Sicilia. Daniele da Roma, per concludere, ma io voglio 15 secondi di Daniele, perché insomma le parole di Silvana Grasso mi hanno sì, gelato, certo. Daniele. Beh, certo. Eppure io rimango basito, perché sembrava di sentire il satirico di Petronio, quando invece i problemi nostri sono quelli più semplici, più stupidi. Noi abbiamo una classe politica, lo sa meglio di me, che se la sbava tranquilla e felice alla faccia delle immagini di Piazza Pulita, ci raccontano tante fesserie. Il discorso è semplicemente questo: la facessero finita e se ne andassero, se lo desidero. Sì. Desiderano a dove? Daniele, abbiamo detto la stronzata delle 20:55, ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Happy birthday to you, happy birthday Mr. President Cruciani, happy birthday Grataki. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.